Graziella 7, 4 luglio 10 e 28, tenens numero 1. È rimasta solo questa, quindi no, poi andranno ricomprati. Prego, allora ieri si stava parlando della sua esperienza al liceo classico a Valdagno, come si chiamava il tuo liceo? Trissino, Gigi Trissino. Gigi Trissino. Il Trissino è un letterato del Cinquecento, ma non mi pare si chiamasse Gigi, comunque va bene, no, non importa. Gigi punto. Ah! Gigi Trissino. Gian Giorgio, mi sembra. Sì, già, sì. Gigi. Poi insomma se ne è già parlato sostanzialmente e eravamo arrivati al fatto che un po' ti eri riscontrata con la scuola, un po' avevi perso il tuo gruppo di riferimento perché erano più grandi di te, erano andata all'università e un po' c'avevi questa cosa nata dall'autunno caldo sostanzialmente della classe operaia. Prego. E quindi niente. Pensai che dovevo vivere l'esperienza di fabbrica come preti operai precisa, solo che io non ero né prete né pretessa, anzi era un po' il periodo in cui avevo un po' perso questo riferimento dei cattolici del dissenso che leggevano i libri, quindi ero rimasta io e io da questo punto di vista, però era stato il periodo in cui ho frequentato di più le ACLI a quel punto. E quindi anche i preti. E avevi 16-17 anni, quindi. Avevo, dunque, sì. 17. Sì, cioè, facciamo il conto, ho compiuto 14 anni in quarta ginnastica. Era a novembre, quindi c'era la quarta. Sì. Sì, ma avevi 17. Sì. E quindi niente, sono partita, sì, 17, quindi più di 16, quindi comunque potevo lavorare, e comunque potevo lavorare come apprendista fino ai 18. Se non fino ai 21, guarda, non mi ricordo, perché il voto era ancora i 21. E quindi l'idea di andare in fabbrica fu anche facile trovare posto, perché mi mettevano in regola come apprendista. L'unico dubbio che avevano quando mi presentavo era che avevo studiato. E quindi potevo essere una rompicoglione, ma immagino fosse. Che avevi studiato 3 anni, peraltro. Ma per loro avevo studiato, cioè la gente a parte quello che manco avrò specificato, avevo fatto un pezzo di superiori, cioè la gente con la terza media lì erano gli impiegati, l'altra era la quinta elementare, cioè e difatti i miei compagni di viaggio erano quelli delle contrade con cui avevo fatto le elementari e che poi non avevano più fatto niente e qualche ragazza, ma soprattutto maschi, a quel punto avevano cercato il lavoro fuori e andavano in fabbrica. Cioè da prima dove andai, trovai, mi presero a questa Giuliari di Alte Ceccato, dove facevano sedie di moto per la Piaggio, ora lo dico ora perché erano due le sedie che facevano, quelle per la Vespa, per la Vespina e quelle per il Ciao. All'inizio, essendo io studiata, mi ha fatto fare quello che per loro era un lavoro di concetto, vale a dire mi ha dato una taglierina, un coso di cartone che era la forma e io dovevo seguire il coso di cartone e ritagliare questo vimpelle che poi avrebbe coperto le cose della Vespa. Ma era un lavoro che mi addormentavo, era terribile, anche perché mi dovevo alzare alle 6 del mattino, anzi prima 5 e mezza, perché avevo la corriera del 6 e un quarto. Con la corriera del 6 e un quarto arrivavo a Valdagno. A Valdagno c'era il trenino che arrivava fino ad Alte Ceccato, insomma e tutto arrivavo alle 7:30 partendo alle 6:15 da Requaro, perché arrivavo alle 8, ero già stanca. Altri facevano la mia vita, tutta questa gente, proprio la mitica classe operaia, che io fin da subito non mi piacque più tanto, erano tutti i ragazzotti che cercavano la fidanzata e parlavano solo di quello. E le ragazze cercavano il fidanzato e parlavano solo di quello e io ero un po' avvilita con questa classe operaia, che io pensavo avrei fatto i discorsi di lotta delle fabbriche, Giuliari, non c'entra sindacato, figurati, cioè non capiva neanche, avrò tentato 2 volte di fare un discorso, non capiva neanche perché parlavo, insomma fui molto un po' avvilita da questa classe operaia, anche perché ero estremamente affaticata, quindi in quel periodo cominciai a frequentare altra gente, non la classe operaia, ma la media classe un po' in sussina. Mi ricordo che per dire il passaggio i miei amici di prima, avevo scoperto De André e tutto questo, lì il mito, quello che si ascoltava sempre, c'erano ancora i jukebox, era Battisti. Okay. Quindi era un altro mondo in qualche maniera, con me che cercavo di, alla fine di stare aggrappata ai preti, che poi i preti, a quello che poi uno è franco, che quello che poi si è sprecato, eccetera, ha fatto il sindaco di Requaro, cioè quindi erano anche dei personaggi, boh, per l'epoca avanti, ecco, non erano proprio inquadrati, perché quantomeno riuscivo a farci un discorso un po' di più che non con questa classe operaia. E quindi poi parallelamente frequentavo una specie di compagnia sia a Requaro che a Valdagno, che era un po' collegata al movimento giovanile delle ACLI. E quindi io a quel punto ero miei coetanei, erano più piccolini. Ma che vita facevi? Perché Altececcato non è accanto a Requaro. Facevo questa vita, che mi alzavo la mattina a quell'ora. A che ora? Alle 6 e un quarto, 5 e mezzo, pensavo, perché poi da Corriera avevo da camminare 20 minuti per arrivare a Corriera, quindi mi alzavo alle 5 e mezza, Corriera 6 e un quarto, 7 e mezza, 8 meno un quarto, era Altececcato, entravo in fabbrica, timbravo e mi mettevo a fare questo robo, questo lavoro, e mi addormentavo mezza. Mezzogiorno c'era la pausa pranzo, e la pausa pranzo durava un'ora e mangiavamo con la schiscetta, cioè praticamente c'erano dei... quello che ora è forno a microonde, invece erano delle stufe con un vascone enorme sopra, pieno d'acqua, che loro attaccavano, che quando arrivavi la mattina mettevi la schiscetta di alluminio, quello di alluminio proprio di Marco Valdo, dentro, che così verso le 11:30 attaccavano l'acqua, si scaldava, tu quando era di mangiare andavi, ti pigliavi la schiscetta, mangiavi, la pausa era di un'ora, ricominciavi a luna, alle 5 finivi. A quel punto? A quel punto andavo verso la fermata del trenino, ripigliavo il trenino, arrivavo a casa alle 8. Ormai e poi? A quel punto sì, la sera? Allora, a quel punto non uscivo più proprio tutte le sere. In quel breve periodo facevo una vita più della classe operaia, nel senso che si usciva il sabato e la domenica, perché il sabato si lavorava a mezza giornata, cioè fino a mezzogiorno, si lavora anche il sabato, ma fino a mezzogiorno. Non mi ricordo, quindi credo che il contratto all'epoca fosse 42 ore, 46, non so, perché poi avevo anche un contratto un po' meno ore perché ero apprendista. Nel senso che non potevo fare straordinari, cioè c'era una serie di vincoli, nonostante questo era il padrone. Se lavoravate anche il sabato a mezza giornata sarà stato 46 ore. Era 46, dai, 5 per 8, 40, sì. No, 44 era, perché era mezza giornata fino a mezzogiorno sabato. Ma e dal punto di vista, diciamo, politico, qual era la situazione della fabbrica? Cioè, per fondere la anche cercando questo, c'era ma qualche tratta di... Ma io ho capito che, allora, intanto... Già mi misero inizialmente a fare questo tipo di lavoro con cui era impossibile socializzare, perché i tavoloni erano grandi, i miei compagni di lavoro, che per lo più erano donne, erano molto lontani da me, non si poteva neanche parlare, non c'era neanche questa opportunità. Il problema fu che io mi addormentavo, quindi rallentavo, già sono lenta di natura, e poi mi addormentavo mezzo, insomma non rendevo niente, allora pensavo di spostarmi, mi cambiarono un posto di lavoro. Mi misero la catena di montaggio, anche se avevo studiato, mi misero un lavoro più manuale. La catena di montaggio consisteva in questa cosa, lì ci passavano le selle, le spugne. Il mio lavoro, io ero fra due, cioè arrivava questa e dovevo dare il mastice alla spugna, perché quella dopo avrebbe messo il seme in pelle sopra. Quindi avevo sto pennellone, niente guanti, niente mascherine, niente, con questi barattoloni di mastice, noi lo chiamavamo mastice, chissà che incollante era, cioè secondo me una roba tossicissima. Quello sicuro. E dovevo spargerlo su questo coso. Mi masticiavo tutta anch'io, perché poi non ho manualità, cioè, non ero adatta a questo tipo di cose. Come mi addormentavo su quello, su questo masticiavo, quindi mi cascava il mastice addosso, le mani. Poi non veniva più via, cioè andavo a casa, ero tutta nera, con questa roba che non c'era verso di togliersi addosso. Ma questa è stata poi l'ultima mansione? Oppure... No, no, perché a un certo punto effettivamente era tanto nociva, e una volta svenni, allora si presero paura perché ero pure apprendista. E pensavo, ero pure studiata, quindi... Ed ero pure studiata, e quindi pensarono che non andava bene neanche lì per me, secondo me non ne potevano più di me. Trovarono quello che poi fu il mio lavoro fino alla fine, che tra l'altro, allora, la fabbrica era composta di due capannoni grandi, in uno dove ero io era quello delle donne, erano tutte donne che facevano questo tipo di lavoro, cioè la struttura morbida delle sedie, le spugne, ritagliare spugne, ritagliare quelle cose che ritagliavo, incollarle. Dopodiché dall'altra parte invece era una specie di tonderia, dove facevano la struttura metallica, quindi con altre forme, eccetera. C'era però un punto dove avevano messo un omino che era al bordo, accanto al portone per entrare nell'altro capannone, che aveva un alto forno, e il lavoro che faceva lui era di saldare, presente la sella del ciao, cioè il tubo che va a finire dentro all'impalcatura della sella, dove dopo viene messa la gommina, eccetera. Il suo lavoro era quello di saldare il tubo all'impalcatura metallica dentro questo alto forno. A me mi misero a fare questo lavoro, cioè, quindi eravamo a metà tra gli uomini e le donne, io e questo omino, e il mio lavoro era di prenderlo, perché quando lui lo saldava si facevano tutte, non so come si chiamassero, le bave, cioè mentre questo ferro, mentre era bollente, era liquido, quando lo tirava fuori dopo la saldatura ovviamente cadeva giù e si faceva tutta quella roba ferrosa intorno, che diventava immediatamente rigida, molto tagliente, ovviamente i bordi erano taglientissimi, quindi tu non potevi mandarli in quelle condizioni alla lavorazione, dove la gente li doveva pigliare in mano, così si trattavano le mani. Il mio lavoro era un'unita di un martelletto, e dovevo prendere, guarda, me lo ricorderò sempre quel gesto, mi ricordo, avevo l'omino, mi metteva di qua quelle che saldava, io dovevo pigliarle, cioè, pigliavo il tubo, e poi avevo questo martelletto, dovevo far così, nel frattempo c'era un po', sopra, ci dovevo dare una martellatina, saltava via tutta la bava, poi dall'altra parte tutta la tata, e metterla di qua, dove poi venivano a prendere. Io per 8 ore era così, così, così, così. E dirò che dove mi trovai meglio, perché era un po' più similare ai miei ritmi, cioè non avevo la fretta di quello che aspetta, che perché li venivano a prendere quando era pieno il cestone, così come bastava che io stessi dietro a questo mino, via via che mi rimetteva, lui non era un esercitato, quindi, quindi sì, eravamo in sincronia anche con i tempi, che probabilmente per la fabbrica erano comunque accettabili. Ma e quanto hai retto quindi in fabbrica alla fine? Allora, io però non è che ci resti molto, perché allora classe operaia non si vede all'ombra. In che senso? Cioè, di fare tutti i miei discorsi della mitica classe operaia, quelli che trovavo ad andare su e giù dal Requaro erano questi con cui non avevo avuto mai nulla da spartire alle elementari, e che avevano in mente tutt'altro, altro che parlare di politica di classe operaia. Questi erano proprio gli ultimi degli ultimi, cioè non erano inseriti in una fabbrica come poteva essere l'operaio della Marzotto, come poteva essere l'operaio del Requaro, delle grandi quanti fabbriche. Dipendenti avrà avuto? Avrà avuto un centinaio di dipendenti, 50 donne, 50 uomini, ecco, questo possono essere i numeri. Cioè, quindi era, non era artigianato, perché non so come sia ora, all'epoca era fino a 16 operai. Ma siamo nel 70 a questo punto? Dopo, era subito dopo che fece la prima licea, la seconda licea. Era il 71. 71. Sì, la 71, sì. Sì. E quindi niente, cioè io a quel punto però poi non è che cioè, con questi non socializzai mai, andavo a lavorare, eccetera. Quindi nel mio tempo libero io comunque dovevo uscire, cioè non ero il tipo di persona che a quel punto mi sono chiusa in casa, ormai a quello era la vita, che io facevo il giro dei bar, eccetera. E trovai degli amici, altri amici al Requaro, visto che questi non c'erano più. E mi ricordo che c'era questa compagnia di cui entrai a far parte, di gente più o meno della mia età, che non aveva studiato, che in genere facevano o gli operai o... perché poi non ho parlato di tutta un'altra partita della mia vita, che è quella parte dal primo anno delle superiori, cioè l'estate. Alla colonia fu sostituito andare a lavorare negli alberghi, ho sempre fatto la cameriera poi per tutta la vita. Da cheta. il primo anno fu a 14 anni, me lo trovai io il lavoro, dopo la quarta ginnasio. Dopo la quarta ginnasio, quel primo anno non feci la cameriera, ma ero portiera d'albergo. A 14 anni. Sì. Vabbè, ma non c'era il notturno. Ma e questo dove, grazie? Recuaro. Sempre a Recuaro? Sì, perché Recuaro era turistico. Quando era junior, Recuaro si trasformava. Amico mio, non ti conosco. Cioè, intendo, si sospendeva tutto perché c'era la stagione. Anche perché l'economia di Recuaro, a parte chi lavorava a Recuaro, ruotava attorno alla stagione, che era molto breve, perché c'è un clima abbastanza impietoso a Recuaro, umido, peggio di Pistoia, ecco, piove sempre. Quindi sai, la stagione si riduceva ad un mese, c'erano tutti questi vecchi che venivano a fare la cura delle acque. Che voi chiamavate? I bai d'acqua. Allora, i bai d'acqua, bai vuol dire insetto, verme. I bachi. Sì, bai da. Sì, bai, bacco, esatto, che c'è il corrispondente in Toscana. Anche sembra livornese, bai d'acqua. Bai d'acqua, che era appunto sti vecchi rincoglioniti che poi vendevano questi bicchieri col manico tipo birra, ma con scritto qua interno per l'acqua. Tu vedevi la fila dei vecchi intorno ai 60-65 anni che uscivano molto presto la mattina e si legavano questo bicchiere, lo infilavano nella cintura e portavano questi vecchi di questo bicchiere. Sì, erano 65 anni all'epoca erano vecchi. Sì, era, cioè 60 anni li vedevo sta vecchi. Quindi, e quindi era un po' il cambio quale fu, che anche quando io facevo la cameriera d'estate, ma lo facevamo tutti, cioè anche gli amici ricchi lo facevano. Perché comunque questo era il paese. E la sera quando finivamo, anche perché poi devo raccontare cosa voleva dire fare la stagione, era qua ma come nel resto d'Italia, cioè significava cominciare a lavorare verso il 20 giugno, finivi ai primi di settembre, fortunatamente la scuola iniziava il primo di ottobre, quindi avevi poi quasi un mese, e non c'era mai un giorno libero, mai, da giugno a settembre tu non avevi un giorno libero. Io, a parte il primo anno che feci la portiera d'albergo, che quindi però era un po' un lavoretto di una ragazzina, anche se facevo le mie ore, il mio lavoro consisteva nel accogliere la gente, nel portarli nelle stanze, e poi dovevo tirare giù i dati dei documenti, portarli ai carabinieri, andavo, perché era un albergo abbastanza di buona categoria, andavo a portare la lavasecco gli abiti di chi voleva farseli lavare, era un po' una garzona facevo, però era portiera d'albergo. Ovviamente mai in regola, quindi non so cosa cazzo ci fosse scritto, non c'era un posto dove era scritto quello che io facevo, ma tale ero considerata la portiera. Dall'anno dopo lì non ci andai più, anche perché mi pagavano poco, mi sa che un anno ho fatto la barista, un anno dopo, in un bar, che era lì in centro a Recuaro. Comunque anche fare la barista mi piaceva, ma anche fare la barista era un po'... pagavano meno, quello che pagava di più era fare la cameriera negli alberghi e trovai lavoro, che poi lo feci per tutta la durata, cioè fino a 18 anni, trovai lavoro da questa pensione L'Aquila d'Oro, che era una cosa di fuori, cioè era una pensione decaduta, al tempo era una pensione di prima categoria, al tempo intendo all'inizio del Novecento, quando Recuaro era in auge, ci andava la regina, ci andava questo, quest'altro. E avevano ancora quella che chiamavano l'argenteria, ma era d'argento davvero. Cioè, praticamente il servizio era tutto, pesantissimi tra l'altro, questi coltelli, queste forchette, queste batterie, d'argento vero. Avevano i piatti con tutto lo stemma dell'Aquila d'Oro, con l'Aquila, quindi molto asburgica era. A gestirla era rimasta questa famiglia, un po' disgraziata, che era decaduta pure la famiglia. Tanto che l'anno dopo cominciò anche la mamma a venire a fare le pulizie, andava a fare le camere, con la zia, che era la zia Nubile, che anche lei lavorava come una scema a 70 anni a fare le camere dell'albergo. Lo gestivano, cioè non tutti e tre, in realtà quella che ci lavorava e lo gestiva davvero era la sorella, tre fratelli, una sorella che era la più grande, il secondo fratello che era uno Pinocchio e il terzo fratello che era uno di fuori. La sorella era, che secondo me era lesbica, era quella che gestiva tutto, faceva la cuoca, cioè stava dietro tutti i clienti, era una molto vista, tale Venanda. Il secondo invece, quello palesemente, che tutto il paese sapeva che era la checca del paese, però era uno che se la tirava tantissimo, fra l'altro lui era caduto in una disgrazia, per cui tutti i maldicenti lo pigliava per il culo, e lui, tale Nicola, e lui aveva molto, era molto ambizioso invece, lui era dirigente della Requadro a un certo punto. No. Sì, perché comunque la famiglia da cui, cioè loro erano ricchi di partenza, poi erano decaduti. Lui era dirigente della Requadro, è stato per anni, a un certo punto c'è stato un ammanco, ma la Requadro era una era partecipazione statale, quindi capito, non c'era il padrone, quindi probabilmente questa cosa è stata abbastanza possibile per un dirigente. E perché faceva questi ammanchi? Si scoprì che aveva perso delle somme enormi al casinò di Venezia. È chiaro. Certo. E quindi l'hanno licenziato. A quel punto lui è stato molto sofferente, quindi io sapevo la storia perché la Venanda si confidava sempre con la mamma, tutta la storia del suo fratello, perché pensava che la mamma, non so, non è vero che la mamma non fosse giudicante, ma forse era giudicante solo con me, magari non con altri. E quindi la mamma sapeva tutta della rava e della fava di sto Nicola. E il povero Nicola, dopo questa vergogna per cui è stato messo all'angolo, licenziato, ha deciso di andarsene. E dove è andato? A fare il cameriere sulle navi. E quindi aveva imparato a fare il cameriere, lui era un esperto cameriere. Dopodiché nella vita, in realtà lui non è, aveva preso me a fare la cameriera, non è che lo facesse Nicola, però Nicola era il mio aiutante, però mi ha insegnato tipo come mettere le forchette, ecco, perché non cadano, lui era tutto bello precisino, ma lei mi aveva preso abbastanza in simpatia. Poi lui, che fosse gay, era palese, perché ogni tanto faceva i festini, cioè vale a dire quando magari era settembre che chiudeva l'albergo eccetera, allora c'era l'epoca dei festini, però non occorreva andare a fare il servizio, semmai la mia mamma doveva andare a fare le camere per gli amici di Nicola, quindi faceva questi festini. Senti Graziella, ma in questo periodo non eri più la bambina difficile? Chi eri? Come vero, ti percepivi? Come ti vedevano i tuoi? Che rapporto avevi? Allora, intanto ero quella che era andata in provveditorato a protestare, e bisognava in qualche modo fermarmi perché mandavo a mettermi i pasticci. Il mio babbo, dopo non so, quella, non so se l'ho raccontato qua o fuori, quella vicenda della forchetta tirata sì, l'abbiamo registrata. Ecco, dopo quella vicenda che ebbe questo scatto eccetera, probabilmente come io fui turbata, ma fui turbata anche lui, e cominciò a un certo punto non votò più l'Amicizia Cristiana e mi disse che avevo ragione su tante cose e diventò socialista, votava PSI e quindi era cambiato, e anche mio babbo nei miei confronti non ha mai avuto una, cioè alla fine pensava che avevo le mie ragioni per fare queste mie follie e cercava di non entrare nel merito. La mia mamma, pensava anche la mamma che avevo le mie ragioni, ma pensava ma questa si va a massacrare nel mondo, e quindi portava pazienza, ma portava pazienza non accettando nulla di quello che facevo. Quindi in quell'epoca ho cominciato a portare i miei amici a casa, abbiamo cambiato casa a un certo punto e preso una casa più grande e più vicina al centro, quindi io avevo da camminare meno per arrivare nel corriere eccetera. Quando sono andato ad abitare in quella casa, era su due piani, avevamo la sala grande, cioè tipo il doppio di questa, con una cucina, dall'altra parte c'era quello che aveva fatto un salottino con questi mobili. Ma dai. Nel salottino, questi e poi degli altri. Poi mobili che tu ora hai nel tuo salotto. Esatto, che furono comprati alla nascita del mio fratello per fare il salotto, che mi diceva io dormo sempre nel salotto. E quindi, e poi sopra le camere, ed erano la camera dei miei, poi c'era una camerina per mio fratello che era più piccola perché lui era il secondo, la mia molto più grande, e in più c'era anche una camera che non aveva luce perché la casa era appoggiata al monte, seppur in centro, ma qua era una valle così, quindi non aveva luce dall'altra parte, però aveva un po' una finestrella eccetera, in fondo c'era la lavanderia e per il resto era come una specie di posto fuori dal mondo dove facevi il casino che volevi finché i miei stavano giù. Quando mi andavano a letto si poteva andare a fare casino nel salotto che era sotto la mia stanza. Te potevi portare amici, amiche a casa. Esatto, quindi casa mia a un certo punto divenne quello che durante la fase in cui avevo 14-15 anni andavamo a fare le riunioni sull'America Latina nell'ambulatorio del medico, a quel punto si faceva le riunioni a casa mia, che non era però più sull'America Latina perché era cambiato il tipo di gente, che era di cantare canzoni. Quindi non c'era nulla di politico in quel momento? Erano... Praticamente no, cioè quello di politico che mi rimaneva è che comunque questa gente, pur essendo, cioè non era organizzata, però era anche, cioè c'era poi la destra a Recuaro, c'erano i ragazzi di destra, loro non erano quello, non erano neanche l'elite che erano quelli precedenti. Questi erano quelli che tuttora, io di un paio sono amica su Facebook, cioè sono quelli che pigliano le posizioni nette a sinistra, cioè quindi evidentemente c'era un certo tipo di sensibilità. Uno è quello che fu, c'è stato un casino, che ora è morto poveretto, quello era la mia età, tale Carlo Lunari, che fece tutto un gran casino perché andò a Venezia a una manifestazione sugli immigrati, sull'immigrazione, qualche anno fa, con lui, essendo di Recuaro, cioè col gruppo di Recuaro, e fecero uno striscione, da lui capitanato, però usarono la Recuaro, il logo della Recuaro, che cioè io, per come io sono cresciuta in quel paese, quel logo appartiene a noi, non alla Nestlé. Cioè era proprio quello che identificava Recuaro. La Nestlé era denunciato, lui lavorava in comune, ha avuto un richiamo dal comune perché in quel momento c'erano i leghisti in comune, quindi voleva licenziarlo, quindi è successo tutto un casino di questo poveretto che, cioè, per, ecco, non è, il loro percorso era diverso, era un po' la mia classe questa. Ma ti posso, prego, vai. Dicevo, ma scusami, grazie mia, loro, diciamo, li avevi incrociati dopo che quelli precedenti erano andati all'università? Sì. Questi ragazzi qua, vabbè, li conoscevi di già? Magari di vista, capito? E poi ti sei rimettato a vita. Loro, sì, ma loro, fra l'altro, a quel punto, sia io che loro avevamo quei 17 anni, era una compagnia che si formò allora, perché quella precedente io l'avevo conosciuta e si era formata andando a scuola. Questa non era una compagnia che derivava dalla scuola, derivava dal fatto che si andava negli stessi posti la sera, i ragazzi del muretto, che io a quel punto comunque continuai ad andare al bar, anche se non c'erano più quell'altro, a vedere chi c'era, e incrociai questi, magari con altri con cui mi ero incrociata prima. Alla fine si mise assieme questo gruppo, che però era molto eterogeneo, cioè non era identitario, facevamo una vita simile, questo è vero, facevamo una vita simile, quindi c'era chi lavorava, chi poi non lavorava più, chi, dove grosse riflessioni non se ne facevano, dove si cercava di sopravvivere agli adulti sostanzialmente, di sopravvivere in un paese, e lì ha cominciato questo senso che è comune ai ragazzi del paese, il desiderio di andartene, dire che cazzo ci sta a fare in questo buco, viviamo in un buco di culo, però poi tutta gente che è rimasta lì alla fine della vita. Però tu hai un buon ricordo comunque anche di questo gruppo rispetto a... Sì, cioè sì, di persone comunque, non erano persone di cui mi fidavo abbastanza, cioè non era il mio, non era propriamente il mio, ma rispetto a quello che offriva il contesto era il meglio. E difatti poi fu con quel gruppetto un po' allargato, un po' col prete, che andai anche a Tesè. Senti, ti volevo fare una domanda prima di te, se è possibile. Allora, uno, siamo appunto nel 71, nel 71 insomma è un anno abbastanza pesante in Italia, ci sono un sacco di mobilitazioni fasciste, e questa cosa voi dal vostro buco di culo del mondo la vivevate? No, non c'erano i fascisti a Recuaro, c'erano i partigiani. Però, c'era stato un posto di partigiani. Però c'erano i giornali, quindi nel senso ne parlavate? Con questa gente io non ne parlavo, cioè se fino al 71, sì, 71, che io comunque frequentavo gli altri, avevo una socializzazione di quel tipo, abbandonata la scuola, capito, nel 72, io ci ho avuto un paio d'anni di buco totale rispetto alla politica, dove io non facevo più una politica reale, cioè reale, non facevo più una politica collegata a quello che accadeva nel mondo, ma solo a quello che accadeva nel nostro buco di culo. Quindi era viverti in un mondo che cioè ero un po' stata ributtata indietro nella mia classe sociale, cioè quella breve esperienza, okay, per cui io non ero più la studentessa, come si diceva. Leggevi i giornali? Io ho sempre letto i giornali, ma secondo me in quel periodo leggevo molto meno anche i giornali. E prima che i giornali leggevi? Allora, io non mi ricordo quando uscirono, io allora, prima che uscisse Repubblica, richiamo la Repubblica, perché è quell'epoca, e poi il Manifesto. Il Manifesto è del 69, no? Sì, il Manifesto del 69. Ecco, cioè, Repubblica deve essere dopo, perché quello più a sinistra che si leggeva all'epoca, per un periodo, io avevo la simpatia per il Giorno. Però c'era anche Paese Sera. Leggeva anche mio babbo il Giorno, perché il Giorno era progressista, diciamo. Sì, esatto, cioè era abbastanza progressista e poi è stato sopraffatto da Repubblica. Repubblica nel 76, Repubblica. Ecco, quindi in quella fase c'era Paese Sera, c'era Giorno. Okay. Compravo anche la Stampa talvolta, perché guarda, era meglio la Stampa del Corriere. Ah certo, non ci c'è. La Stampa comunque aveva un che di. E quindi, però, in quella nel fase, 49, Paese Sera. Forse comprava il Manifesto, però anche il Manifesto, già oggi, ma a maggior ragione all'inizio, era più un giornale di analisi e di notizie interne al movimento. Non le potevo, cioè, era difficile avere degli strumenti poi per leggere quello che diceva il telegiornale, capito? Un'altra domanda ti volevo fare. È relativa sia alla fabbrica che al lavoro di cameriera. Se tu all'epoca notavi, pensavi tipo qualcosa rispetto al fatto di questa forte divisione per genere dei lavori, cioè nel senso che in fabbrica c'era lavoro da maschio e lavoro da femmina, la cameriera penso fosse un lavoro fatto più che altro, no? No, in cameriera c'erano anche maschi, ma a casa mamma me l'ha insegnata Nicola. E difatti credo che fare la cameriera per me ha significato, cioè non era un lavoro necessariamente da femmina, fare la cameriera. Quello che mi rompeva era la divisa che era la femmina e che ti esponeva. Com'era la divisa? La divisa, tutti, non da me, era camicia bianca, camicetta bianca, gonnellino nero, e grembiulino bianco, quella era la divisa. E ti esponeva perché? Ti esponeva perché le gonne erano corte e c'erano i vecchi che tiravano le manate sul culo, perché quello c'era. Però io mi ricordo, successe un paio di volte in quel posto lì, io lì da questo punto di vista avevo l'appoggio della proprietà, della Benanda e anche di Nicola, quindi credevano a me, non a loro. È successo un paio di volte, li hanno massacrati questi, uno l'ha buttato fuori. Perché avevano allungato le mani. Sì. Cioè, quindi, però io stavo bene anche per questo lì, perché in qualche maniera, perché poi in quella fase, in quell'età, un'altra cosa, cioè lì ho vissuto molto la violenza, eccetera, tanto che a un certo punto credo di essermi anche assuefatta, perché poi il senso di colpa ti faceva. Imparavi un po' di strategie per difenderti, ma poi la subivi, lo sapevi in partenza che l'avresti subita. È l'epoca dell'autostop. Ah, avevi già lì iniziato. Ma prima, cioè, tipo, l'epoca dell'autostop è stata dal 68 in poi, quando i giovani hanno cominciato a girare l'Europa. L'anno dopo, il 69, anche noi si faceva l'autostop. Cioè, quante volte la mattina prendevo la corriera e facevo l'autostop? Cioè anche semplicemente per andare da Revoaro a Valdagno. Sì, per andare a scuola, non è che facevo l'autostop per andare in giro per il mondo, se era successo quello. Cioè, quelli che si fermavano erano sempre maschi, che una volta su due ti mettevano le mani sulle gambe, cercavano di toccarti, eccetera. E tu lo sapevi, lo davi quasi per scontato. Io mi ricordo una volta che mi fece particolarmente schifo, perché lo fece il babbo di quella mia amica di cui ho parlato ieri, la Carla, che era una delle mie amiche delle elementari. Quello è, aveva l'età di sua figlia, era andata a scuola con sua figlia, lui mi conosceva e avrà avuto 16 anni, aveva l'età di sua figlia, cioè, però ecco, questo sì, era talmente ora dicano eccetera, cioè, ma io so convinto che quella della mia generazione, che non sono state a casa sotto l'ala e comunque hanno cercato di fare le stesse cose che facevano anche i maschi, con questo ci dovevano fare i conti, sapendo che non certo, se mi mettiamo le mani sul culo perché ero andata a lavorare, cioè se ero in un contesto amichevole magari stava dalla mia parte, ma di che mi lagnavo se avevo fatto l'autostop? Sai quante volte io ho giocato sul ricatto, sul farmi mettere giù perché magari pigliava una via laterale, mi finivo in mezzo ai campi? Sono riuscita a non farmi mai violentare, non so come, miracolosamente. Cioè, sempre con la consapevolezza, se gli do uno schiaffone, no, può reagire, può farmi male, mi può ammazzare. Però, cioè, quella cosa sul filo del rasoio, io la cosa che la ricordo è dopo, quindi faccio un salto in avanti, ma per dire la mitica cosa di salire in macchina con gli sconosciuti, ci arriveremo, dopo la morte di un babbo, dopo che sono tornata a recuare dalla mamma, io a un certo punto sono uscita di capo. Voi mi avete visto l'uscita di capo come sono, non ho controllo, posso fare qualsiasi follia, e feci una follia. La follia fu che non ne potevo più, scoppiai una notte buia e tempestosa. Poi, no, non è quella lì, quella la feci un'altra volta, non era buia e tempestosa quella notte lì, era una notte d'estate, decisi di andarmene. Non riuscivo ad affrontare mia mamma, che avevo detto che ero lesbica, che stavo con Ornella, questa fece una catastrofe questa cosa, la mamma che piangeva, non mi sopportava più, e diceva dovevo smettere, cioè andò in falda, era morto mio babbo da 2 mesi, quindi era una situazione difficoltosa, e io scoppiata decisi di scappare di notte, scappando dall'arequaro, perché ero dove ero andato, da tutto. All'inizio pensai di prendere la macchina di mio babbo, che tanto non avevo neanche la patente, comunque pensai di prenderla. Non si sa come, sto cazzo di chiave del garage, non riuscì ad aprire il garage. Però ormai avevo deciso di andarmene, sono partita a piedi per andare a Verona, dove avevo vissuto. Sono partita a piedi da Requaro a Verona, ci sono tipo, boh, ti l'hai fatta Elena, 80 chilometri, 80 chilometri. Sì, 80 chilometri. I primi 35 che vengono giù dalla valle e arrivano a Montecchio Maggiore, Alto Scato, dove lavoravo la Giuliari, che è dove c'è l'ingresso dell'autostrada, in realtà della 4, e poi da lì c'è la statale che va a Verona. Quindi parto a piedi, paro a 2 di notte, per andare a piedi a Verona. Non si sa come. Certo, parto, cammino, dopo mezz'ora dico, io non ci arriverò mai a Verona. Dovrei rubare una bicicletta, poi ci arriveremo, perché io quando ero a Padova a un certo punto avevo imparato a rubare biciclette, forse con una bicicletta ce la posso fare. Quindi mi inoltre una stradina laterale e vedo una bicicletta. Questa bicicletta era di appoggiata in realtà, non è un posto dove rubavo la bicicletta, quindi ho deciso di appropriarmene e parto con questa bicicletta. Era una bicicletta tipo Graziella, con le rotine piccole. E dopo un po' poi quello pezzo, un po' in discesa, arrivo a Valdagno, oltrepasso Valdagno, viene la notte, cioè a quel punto erano tipo le 3 del mattino, arrivo a questo punto dove mi metto nella statale e comincio a pensare, sai che non ce la farò mai, avevo pochissimi soldi in tasca, 3.000 lire, ma ho calcolato che se arrivavo fino a un certo punto c'era poi la stazione del treno, dove potevo prendere il treno pagando 2.000 lire che avrei avuto per arrivare fino a Verona. Quindi mi fece questa idea, non ne potevo più di sto cazzo di bicicletta. Non ero neanche vestita, faceva anche freddolino, mi ricordo, avevo solo una camicia addosso. Era metà agosto, però faceva freddo di notte. Quindi parte però lungo la statale. Mentre vado sulla statale ripassavo le macchine, un tizio mi si accosta. Mio madonna, ho pensato, ci manca giusto questo nelle condizioni in cui sono, e comincia ad attaccare bottone. Io faccio finta di non capire, questo insiste, mi taglia la strada, una cosa e l'altra, e qua mi ci devo rapportare, cioè so che scappo di casa in questa situazione, c'ho da gestirmi pure sto scemo con una 500, un macchinino, sai quegli sfigati. E quindi dico vabbè, tra l'altro avevo anche un altro dramma, non avevo le sigarette, quindi ero talmente disperata che ho detto vabbè senti, almeno abbia una sigaretta, ma ce le hai le sigarette? Quando mi ha detto sì, non metti una sigaretta, ho detto vabbè, senti, e ho pensato, in qualche modo lo gestirò, l'ho fatto tante volte, mi faccio portare alla stazione, così almeno. E quindi decido di mollare la bicicletta, che lui fra l'altro me la fa mollare buttandomela giù dall'argine, quindi io non ero neanche più in grado semmai di tirarmela su, e salgo, ovviamente ci provo ma non troppo, intanto fumo una sigaretta, quello era abbastanza decisa, fumo una sigaretta poi capisco che a un certo punto comincia a farmi degli strani discorsi, che sono stanca, che lui abita Montorso, che subito una deviazione, qua pensavo, finisce male, quindi devo in qualche maniera difendermi. Quindi mi è venuto istintivo, ho cominciato a agitarmi tutto volutamente, dire, ma mi pare di avere sentito una sirena, l'hai sentita una sirena? C'è una sirena, c'è una sirena? No, ma non c'è nessuna sirena, scusa, sono un po' agitata, eh. No, io perché sai, sono un po' agitata. Lui comincia ad allarmarsi, insomma, alla fine tanto faccio, tanto dico, che gli do da intendere che sono scappata dal carcere, questo è grande. Uno scavo, voleva che scendessi. Come scendo qua? Ora mi metti giù qua, io c'ho la bicicletta, ora tu mi riporti la bicicletta. Insomma, si è preso tanto scavo che mi ha riportato la bicicletta. E poi e ora scendi a prenderla dall'argine, l'hai buttata là, è sceso dall'argine ed è scappato come una saetta. Però sai, a quel punto ho più di 20 anni, a 23, 24 anni ero in grado di mettere anche questo, perché sai, esperienza di quelli che ti mettono le mani addosso, che avevo avuto dai tempi dell'autostop. Quindi questa, ecco, per dire, no, cioè la percezione, cosa significa essere donna, cosa cambia essere donna in quel mondo, cazzo se cambia, però alla fine quello che è cambiato è che io sono venuta fuori, ero meno fifona di un uomo medio, perché ne ero passate talmente tante di situazioni difficili, dove, cioè, tu hai a che fare con sta gente, ma tu non lo sai come diceva la ruota, io ce l'ho sempre avuto presente, non solo che mi poteva violentare, mi poteva anche ammazzare uno così, e quindi anche giocare su questa cosa che io dovevo fargli io più paura di quello che lui faceva a me. Oh, ha funzionato quella volta, ha funzionato, si è preso uno scavo, pure è sceso nell'arte, che ho pensato, guarda, se sapessi guidare la macchina, gli potrei anche fregare la macchina, dato lui starà con la bicicletta, così arrivo in stazione. E invece mi sono preso la mia bicicletta, sono andata in stazione, ho ripreso tutto. Mi sono fatta lasciare il pacchetto di sigarette anche. Dai, questo è un episodio. Vabbè, riprendiamo il filo, abbiamo parlato, questo era più avanti, possiamo anche procedere. Sì, abbiamo parlato dell'estate, abbiamo parlato dell'esperienza operaia, sì. Poi tu a quel punto hai ripreso la scuola, cioè hai ripreso la scuola, hai deciso di farla da Ma prima del palo operaia, cioè a un certo punto quando è stato iniziato a settembre, quando è stato a novembre non ne potevo più di farlo operaia, anche perché in questi gruppi che poi frequentavo avevo pure cominciato che andavo a fare le marce non competitive, quindi ero anche molto stanca fisicamente e pensai, non ce la faccio, ma ora che cazzo di figura faccio anche con i miei desideri, io non voglio più andare in fabbrica eccetera, io per venire via da lì ho solo una salvezza, trovare un altro lavoro. Quindi una bella mattina invece che andare a lavorare andare a cercare un altro lavoro. Invece un paio di fabbriche dove non mi presero, perché a quel punto io dovevo dire la verità, che lavoravo là e volevo venire via, una che viene via da un posto non è mai ben accetta da un altro, mi presero invece ad Artignano in una pasticceria che stava in centro, bar pasticceria, perché quello era tutto un altro lavoro, io comunque avevo esperienza come cameriera, anche come barista, e mi presero. Però il fatto era questo, che lì gli orari erano diversi, intanto ad Artignano non c'era modo di arrivarci in giornata da Recuaro, dovevo restare a dormire a casa loro. Era una famiglia con due bambini e una suocera, una far così. Avevano questa pasticceria, lavoravano molto, erano bravi evidentemente, facevano le paste buone, il pasticcere era lui, la moglie stava al bar sostanzialmente. Io ero, non avevano altri dipendenti, loro cercavano una persona in più che gli sapesse stare al bar inizialmente, provarono anche a mettermi alle paste, ma là capirono che io nelle cucine e nei forni non era il mio, mentre al bar ero capace, dovetti un po' imparare a far su i vassoietti delle paste perché all'inizio non riuscivo a legarli bene, però imparai. E lì era un bar bello, fra l'altro, dove c'era la gente con gli aperitivi, io quindi imparai a farli. E il problema è che era un lavoro 24 ore su 24, avevo un giovedì libero e iniziavo a lavorare, dormivo da loro, iniziavo a lavorare la mattina alle 7, col caffè, queste cose, andavo avanti fino a tutti gli aperitivi, poi venivo mandata a casa verso l'una a mangiare e dovevo ripresentarmi verso le 4, le 5, per poi fare la seconda parte. Il fatto è che io pensavo di riposarmi, oltre a mangiare, mi faceva la suocera a casa, quindi trovavo pronto, aveva questi due bambini, mi faceva fare la bambinaia, cioè, questi tornavano da scuola, tanto io ero di riposo, guardi i bambini. Cioè, io già quei bambini non so fare, due bambini poverini, anche loro piccini, cioè tipo uno avrà avuto 4 anni, andava all'asilo, quell'altro 6 anni, però hanno un'età che vogliono molto l'attenzione. Quindi non è che dice no, ora voi giocate, fate, non erano 8-9 anni che giocavano da per loro, era proprio l'età dove gli serviva la babysitter, perché tu dovevi intrattenerli che non si facessero male, non perdere lo sguardo che uno... Insomma, io lì, fra l'altro, poi persi anche la possibilità di avere una socialità al quaro. Certo, perché eri isolata là. Perché a quel punto eri isolata. Allora, il giovedì avevo trovato un fidanzato che veniva da un paese vicino che avevo conosciuto tramite i preti. Tesè c'era andata l'anno prima, secondo me, quell'estate c'era andata, quindi era un po' un rimasuglio di quello. Questo era uno che voleva fidanzarsi. Cioè io alla fine mandavo bene anche lui per andare al cinema, no? Avevo solo il giovedì libero, quindi il mercoledì sera io tornavo e c'avevo questo, mi veniva a trovare, così uscivo, non mi dovevo neanche organizzare la serata. Tale Eddie, questo tale Eddie che veniva dal paese vicino, poveretto, aveva addirittura un anno meno di me, non aveva neanche la Vespa, quindi si faceva portare da un suo amico con la Vespa ad andare a Morose, perché il giovedì era il giorno dei fidanzati, anticamente, quando si andava a Morose. Lui era fermo a quella società, veniva da un paesino sopra Valdagno, tale si chiamava La Piana, questo posto, cioè, e proprio beveva in un'altra epoca. Io mi spaventai tanto quando una volta venne a casa mia, in questa casa dove portavo un monte di gente, che era una casa nata come casa abbastanza signorile al suo tempo, poi non l'aveva presa in affitto, e aveva il lampadario con, sai, i rosoni di gesso, che non è che fossero frequenti, cioè c'era in alcune case, ma normalmente io credo che Eddie a casa sua non li avesse. E un giorno viene a prendermi, sta lì in chiacchiera con mio babbo, sta ragazzino di 16 anni, e sento che dice con mio babbo, ah, che belli però questi rosoni, anch'io quando mi sposo con la Graziella di mezzo, insomma decisi. Intanto veniva sempre accompagnato da questo suo amico, qualche volta nelle contrade si ballava anche giovedì e andavamo a ballare, ma il suo amico era più bravo di lui, quindi io ballavo col suo amico. Ma cosa ballavate? I lenti, era l'epoca dei lenti, quindi i lenti li ballavo col suo amico, lui era proprio poverino, un tordone, non si rendeva conto di niente, io ero stronzo, non me ne fregavo né di lui né del suo amico, però il suo amico era più interessante. Poi a un certo punto il suo amico ebbe anche una macchinina, quindi cosa cominciò a succedere? Che il suo amico mi veniva a trovare dal Gignano poi per la settimana, quindi avevo tutti e due, io pensavo, ma che cazzo, ma che si andava a letto comunque, ma non proprio, col suo amico sì e con Eddie no, a dirla giusta, a letto, poi in macchina col suo amico, insomma, sì, perché lui sapeva fare, facevi sesso, sì, col suo amico facevo sesso, con Eddie che mi doveva sposare, aveva, il suo amico era più grandino, aveva 18 anni, lui 16, quindi il suo amico metteva un anno più di me, di uno di meno, era un bambino Eddie, quindi capiva niente, quell'altro invece era un ragazzo, era anche più carino di Eddie, sapeva anche più fare, si vedeva, cioè io poi mi rendevo conto che con lui non rischiavo queste cose, perché lui ne aveva tante, e quindi era più adatto a me Eddie, quell'altro non so come si chiamasse. Ed invece, ma mi ricordo che la mia mamma si rese conto che stavo facendo, non seppe mai se facevo sesso, almeno a me non me l'hanno mai chiesto, ma si rese conto che questo Eddie veniva con questo amico, che c'era qualcosa di poco chiaro, e allora mi prese da una parte e mi disse, senti, io fai quello che vuoi, perché non me l'ha detto ma lo pensava, tanto questa chissà che cos'era, forse era lesbica, chissà eccetera, se trova uno meglio si sposa, però insomma io non voglio interferire, che dopo non si butti dal ponte un'altra volta, però insomma vedi te, ma, povero Eddie, se proprio non se ne frega niente, diglielo, questo poveretto, cioè viene, fa tutti questi sacrifici, si sogna il matrimonio, sì, con i rosoni. E quindi cosa feci? Convocai Eddie, gli dici no, devi venire perché ti devo parlare. Quella sera il suo amico non poteva accompagnarlo, ma il povero Eddie voleva venire subito perché avevo qualcosa da dirgli, quindi si fece passare la Vespina, c'erano questi 15 chilometri, e quella si era una notte buia e tempestosa. Arrivò sotto un acquazzone infinito, tutto bagnato come un popolino, e io dovevo dirgli che non lo volevo più. Ha detto, vabbè, l'altra parte è venuto, glielo devo dire, e così feci. Mi ricordo, poveretti, un po', feci i lacrimoni, ma poi non si capiva se era la pioggia, erano i lacrimoni, e dice, no, ma devo tornare a casa, è tardi, e ripartì, mi ricordo ancora, questo vestino, non si vedeva un cazzo, pioveva che Dio lo mandava per andare alla piana. Ma se Eddie era, l'amico di Eddie era il secondo, con il quale se avevi un rapporto sessuale, dopo quello di quell'altro primo, diciamo, no perché altri. C'è stato un altro di quel gruppo, quello di Battisti esatto, quello di Battisti, del gruppo di Battisti, che questo, come si chiamava, Gian Battista era un ragazzo bruttone, ma a me piaceva una cosa di questo Gian Battista, che era molto tenero come persona, e soprattutto fin da quando era piccolo, aveva o la mia età, un anno meno di me, era sempre stato guardato male da tutti e un po' schifato da tutti, perché era figlio di una ragazza madre. E lui, nonostante questo, non si era affatto incattivito, cioè era una persona tranquilla, eccetera. E lui, una cosa anche che mi affascinava, però lui non se la spendeva questa cosa, era il più bravo giocatore di rugby della squadra di Requaro, che era una squadra brava, e quindi era uno che aveva il fisico, cioè era ancora giovane, e quindi non aveva il fisico da grosso, cioè aveva un fisico un po' naturello, ecco, un bel fisicone, e quindi forse mi piaceva un po' per questo, ci ho fatto sesso un paio di volte. Non so se lui mi considerasse la sua fidanzata, ma quando ha cominciato a considerarmi la sua fidanzata, ho un po' tagliato i rapporti. Essendo però un rapporto nato all'interno della compagnia, non ho tagliato i rapporti con lui, semplicemente ci ho più fatto sesso. Certo. E non è stato un dramma, perché effettivamente era una persona anche su questo tranquillo, non aveva lo spirito di possesso, se ne fece una ragione, gli spiacque, ma se ne fece una ragione, voleva trovare un'altra. Ed invece, poverino. Cioè. Senti Graziella, ma allora, qui siamo a, appunto a, all'epoca la pasticceria. Quanto tempo ci sei stata più o meno nella pasticceria a fare questa operaia? Ci sono stata fino a che non è uscito latino, maturità magistrale. Ah, ecco. A marzo, quindi. E quindi poi sei andata... Quando a marzo ho visto che esce, ho avuto l'aggrappo. C'era latino, ho pensato, senti, forse ce la posso fare a fare da privatista. Non avevo idea di come funzionasse tutto, però ho pensato, cioè, quello non dovrebbe essere un ostacolo, in effetti poi il livello del latino che si faceva, ho fatto il classico, quindi so le cioè, arrivava al livello tipo di quinta ginnasio, sì e no, ecco, le magistrali quando arrivava in quarta, per cui quello mi resi conto, non so dove sono andata a chiedere i programmi, ok, però pensai, così, forse ce la faccio. E soprattutto così mi levo di culo da questa esperienza di fare la classe operaia, che mi è toccato trovarmi fidanzati, un gruppo di amici con cui in realtà poi avevo poco a che spartire, per quanto magari certe sensibilità sì, mi stavano anche simpatici, anche simpatiche, però non era, cioè io come anche loro volevo uscire di lì, solo che io lo volevo davvero, loro era un po' quella lagnanza di paese, che buco di culo questo paese, io me ne andrò, e poi tu li vedi a 20 anni fai questo discorso, a 30 continuano a farlo, a 60 sono sempre lì e dicono questo paese non ti fa proprio uscire di qua, è diverso, cioè, quindi non era il mio, cioè non era il mio futuro lì, io questo lo capivo. La domanda qual era? Quindi niente, quindi fai la maturità da privatista. C'è questa cosa, quindi comincio a mobilitarmi, vado all'istituto magistrale più vicino, quello di Vicenza, chiedo come funziona, chiedo i programmi, cioè in qualche modo mi ricevo, mi ricordo c'era il vicepresidente, andare a parlarci, mi dette anche tutti i programmi indicativi della sua classe, eccetera. Comincio a esaminare questa cosa, quindi capì che cosa dovevo fare, cioè vale a dire che non è che andavo a fare la maturità, io dissi la scuola che ho fatto, loro guardarono i programmi, o io gli dovetti portare, dovetti portargli i programmi e le pagelle, mi ricordo ancora che allora dovetti tornare al mio liceo dove non avevo mai più messo piede, e telefonare, mi dissero che dovevo fissare un appuntamento col preside, fissi l'appuntamento col preside e mi presento. Io l'ultima volta l'avevo vista quando mi aveva detto no, lo parli lei col professore, ha tutte le ragioni, parli lei. E quindi c'è, cioè, proprio per non smentirsi il preside. Vado, gli spiego, e lui subito, però, prima ancora che io spiego alcunché, che era andata per prendere le pagelle, per avere i programmi che erano stati fatti, eccetera, perché volevo fare la maturità magistrale, la sua prima paura fu che io fossi tornata a iscrivermi a scuola per l'anno dopo. E mi ricordo che lui mi disse, comunque guardi, sa, lei si può iscrivere in tutte le scuole d'Italia. Cioè, dico, vabbè, guardi, non mi voglio iscrivere qua, stia tranquillo, io solo, e quindi mi dettero queste cose, anche quella fu ridicola. Si può iscrivere in tutte le scuole d'Italia. Terrorizzato. Mamma. E quindi poi sei andata a fare la... E poi mi sono andata a fare prima l'esame, che fu divertente, l'esame quello per l'ammissione alla maturità, che era del programma, a questo punto avevamo toccato fare il programma di terza e quarta magistrale, perché la seconda, diciamo, non l'avevo passata, ma da un punto di vista, soprattutto storia, geografia, sterminate qua, il programma delle magistrali, quello che si faceva in seconda liceo, loro lo facevano in terza magistrale, era... È perché durava 4 anni. Durava 4 anni e quindi, capito, a me mi toccò fare l'esame della terza e quarta magistrale, dove i programmi erano un po' sfasati, ma in realtà la cosa che mi resi conto, per me sarebbe stato un po' più difficile, era filosofia e pedagogia. Perché noi facevamo filosofia. Certo. Noi facevamo filosofia, ma filosofia e pedagogia, a parte il testo, un altro, proprio un approccio diverso. Quindi, poi mescolata sta roba, cioè, quindi io lì per lì non capivo nulla. Mentre il mio approccio alla filosofia era stato, cioè, molto, fra l'altro, al classico, te la collegavano molto alla storia greca, tutte queste cose. Invece lì era tutto schiantato. Su Piaget, su queste robe che io sapevo manco chi fosse, quindi molto schiantato sull'Ottocento, cioè, vabbè, molto diversa. Io, che fra l'altro avevo anche un bel testo, perché comprai il testo che mi suggerì quello, che era Geymonat, no, che all'epoca era, certo, all'avanguardia. Era all'avanguardia, io al liceo non avevo avuto quel testo, mi ricordo, apprezzai come era fatto anche bene, ma mi resi conto che io queste robe non sapevo niente, quindi qualcosina feci lì, cioè dovevo un po' studiare tutto. Provai, ma soprattutto mi concentrai. Intanto la matematica era un'altra roba, c'avevano una cosa che si chiamava aritmetica razionale, non ti saprei dire che cos'è, ma è un'altra roba, non faceva nulla di matematica, ma, cioè tipo nulla, ma neanche geometria, sta aritmetica razionale, dove computavi i numeri, non so che cazzo di roba fosse, era tutto un po' differente. Italiano, mi resi conto che comunque per la maturità io l'ultimo anno non l'avevo fatto, quindi Dante me lo dovevo fare, cioè un po' mi fece... Poi dovevo studiare, insomma. Sì, mi fece un po' io un'idea. Ovviamente le materie secondarie non li pigliai neanche in considerazione, vado a fare questo esame. Allora, i due esami mi promossero, alla fine, i due esami più divertenti furono disegno, io non sapevo disegno, cioè disegno, pensato che esame mi faranno, pensato qualcosa farò. Quindi arrivo lì a fare l'esame di disegno, c'è questo tizio, non so, mi fa dei discorsi che io non capisco, dice questa è la lavagna, mi provi a disegnare, ma cazzo vorrà. Poi ho capito che faceva le mele, i cerchi, io non ho idea, mi dice faccio un disegno, cosa faccio? Comincio a fare una faccia, faccio i capelli, c'entrava il cazzo, cioè questo a un certo punto è un po' ammutolito, poi avrà visto chi ero, ha bozzato un po', è venuto, mi ha fatto una mela, mi ha detto la finisca, insomma, alla fine in qualche modo ha accettato. Sì, sì, mi ha fatto passare, ma il dramma, quello che volevo raccontare di sera, fu quello di musica, che vado da quello di musica, io musica l'avevo fatta alle medie, c'era musica, ma io mi ricordo, ero brava a musica, perché per me musica erano le note, un quarto, due quarti, quindi facevo le somme delle frazioni, ero brava a fare le somme delle frazioni, ma tutto lì, poi stonata, sostonata. Neanche alle elementari facevo musica, non ero scartata dal coro, quindi c'è proprio musica, zero. Vado da quello di musica, questo cieco molto compito, cioè proprio, sai quelli che... Cioè, di questa sua professione magari avrà fatto l'insegnante di musica, ma magari era uno strumentista, cioè era uno che la musica era una parte importante della sua vita, mi vede e dice, cerca di darmi un compito facile, mi dice, mi solfeggi questo, e mi dà, non era quel mazzolino di fiori che c'era con le note. Io non capisco la domanda, prego, come mi solfeggi questo? Cosa vuol dire solfeggi? Madonna, vuol dire solfeggi? Dico, sì, ora, sì, mi solfeggi questo? E io ho detto, ma qua si mette male, e quindi comincio, quel matto gli dice per cantare la canzone, lui è imbiancato, e ha detto, vada via, vada via, vada via. Poi quando sono uscita, che poi mi hanno promossa, mi hanno seguita a quello di disegno che mi aveva fatto fare la mera, no, fa, è stata brava, sei stata brava, ma certo quel di musica era un po' arrabbiato, però io ho sostenuto che anche disegno, ma, e poi mi ricordo invece un altro flash sempre di questo esame per dire come mi ragionava la mia testa, anche storia non l'avevo studiata. Che ho pensato qualcosa di rotto, senti che è successo nel mondo, lo so, e ora io non so di che, voi professoresse lo sapete, ma io proprio non ho presente di che anno fosse, in cui si fa Pietro il Grande. Ah boh, dunque, probabilmente l'ultimo anno, voi, secondo me era dell'ultimo anno, è una roba, io proprio su 4 anni. Mi chiedono, mi parli di Pietro il Grande, che importanza ha avuto nella storia. Io Pietro il Grande, Pietro il Grande, ma come mi dice solfeggi, no? In che paese lo metto intanto? No, quello ce l'avevo chiaro per un motivo molto semplice. Pietro il Grande, San Pietroburgo. Detto, è quella, è la Russia. Poi cerco di visualizzare Pietro il Grande e io da qualche parte ho visto un ritratto di sto Pietro il Grande. Non so dove l'avrò visto, avrò avuto un cazzo di libro dove c'era scritto questo Pietro il Grande. E la cosa che mi aveva colpito all'epoca è che era vestito come i soldati francesi. Poi ho pensato, San Pietroburgo, voi vedete che c'è il mare lassù, quindi magari navigavano, mi sono fatta tutto un flash. E quindi ho detto, ma io ho la mano spatta. E quindi ho raccontato tutta una storia, che Pietro Grande era uno zar illuminato, che aveva dato, infatti gli ha dato la città a San Pietroburgo, perché lui era uno zar illuminato, ma soprattutto aperto la Russia all'Europa, perché lui andava in Francia, ma era vero, perché aveva la stessa divisa, e quindi passai anche storia, andò così. Anzi, qui un bottone. Davvero? Da questa immagine, sai, vestito un po' come Napoleone, subito dopo Napoleone, vuoi vedere, se no, come se li inventavano qui vestiti, vabbè, dai, vuol dire che aveva apertura con l'Europa, e quindi lì la passai. Poi, è questo, vengo ammessa alla maturità. Vengo ammessa alla maturità, vabbè, vado a fare i compiti, il compito di italiano, non mi ricordo che ho fatto, ma avrò fatto quel di letteratura, vedrai, che ho pensato, qua vado fuori tema, non facciamo confusioni, facciamo quello di letteratura, che male male mi darà un basso, ma, però non vado fuori tema. E dopo davano la materia all'epoca, cosa mi danno a me, che venivo, che non l'avevo fatto? Ovviamente filosofia e pedagogia. Quindi questo... dovrò studiare questa pedagogia, ma ormai era tardi, non è che facessi tanto a tempo. Comunque ho un po' questo pensiero, dico, credo che lo scritto adesso è andato abbastanza bene, essendo che uno era latino, quell'altro era italiano, non devo essere andata malissimo, perché visto che poi mi hanno passata, perché invece l'orale, uno è stato di italiano, non me lo ricordo com'è andata. E credo mi abbia proprio interrogato su Dante, ma un conto è far Dante a scuola, un conto è essertelo fatto a casa, certo. Avere un po' sfogliato il paradiso di Dante, quindi mi sono un po' arrampicata sugli specchi. Arrivo al momento della filosofia. Filosofia e pedagogia. Prima domanda, lei che opera porta? Non sapevo che fosse una porta, un'opera, la Madonna. Non lo sapevo, però non posso dire non lo sapevo, sennò ho finito di... Quindi io un tempo prima in biblioteca sono andata a vedere dove era sta roba di pedagogia, non sapendo nulla, mi ricordo che c'era un librino sulla Montessori, o della Montessori. Sì, perché sennò non dicevo quello. E l'avevo tirato giù e avevo anche letto le prime 3 pagine di questo bambino, parlava del bambino da piccolo che fa questo e fa l'altro. Cioè, è l'unica opera che io... si chiamava, non ricordo ancora, il bambino questo sconosciuto. Ah, ma è perfetto! E quindi dico, porfica, ho letto anche le prime tre pagine, dirò che, cioè, se no, cosa gli dico? Non è che posso inventarmi che porto l'Eneide, non è un'opera di pedagogia, non posso inventarmi che porto Machiavelli, non è un'opera di pedagogia. E quindi dico, il bambino questo sconosciuto della Montessori, è tutto bello, magari si accontenta di quello, e ce lo racconti. Allora, evidentemente un po' di memoria visiva, di queste prime tre pagine che avevo letto, e quindi comincio, il bambino quando nasce, perché parte proprio da piccolino questo libro, quando nasce fa così, fa cos'ha, pensavo di aver letto tutto perché avevo finito quelle tre pagine, e ho pensato, forse ho letto l'introduzione che era un riassunto, invece non era così. E dice poi, allora riparto da, non torno proprio dall'inizio quando però nasce, ma dal mese, perché sa, dal mese di vita, poi il bambino, e poi il papà, noi questo non lo sappiamo perché il bambino è uno sconosciuto. Vabbè, ma vogliamo far crescere sto bambino. No, ma dopo va avanti sempre così, è per le stesse fasce di età, ma il concetto è sempre quello, il bambino questo sconosciuto. Io non so come ha fatto a promuovere. Comunque l'hanno promosso. Avrò fatto gran bene lo scritto, penso. Ma poi gli dico, perché proprio per un cazzo gli dico, il bambino questo sconosciuto. Senti Graziella, ma poi appunto, quindi sei riuscita a prendere la maturità e... Sì, quindi ho detto, via è fatta, ora torniamo a fare la studentessa. La classe operaia... sarà già andata in paradiso, là è morta e quantomeno io non è che ci so fare, non è che sono diventata né la classe operaia, ora sono solo né carne né pesce, qua meglio, cioè ho pensato, se faccio l'università vengo via dal quarto, al quarto non c'è l'università, mi fanno andare dove cazzo ci sarà questa università, però ora di andare a fare pedagogia proprio no, non lo no, quello caso, sarà chiaro, cioè, però... Quindi fai l'anno integrativo per poter scrivere. Devo fare l'anno integrativo, ma già un po' con l'idea di fare medicina. Non proprio, ma quell'anno la maturai del tutto, perché quell'anno stetti anche male poi. Cioè, vale a dire, mi iscrivo quest'anno integrativo, quindi partivo sempre con la mia solita corriera, poi il trenino, eccetera, ma facevo lezioni il pomeriggio. Dove andavi? A Vicenza. No. Da queste magistrali dove avevo fatto la maturità, mi iscrivo quell'anno. Era la presa di culo quest'anno integrativo. Tanto lo si è sempre saputo. C'erano tre materie in croce, c'era tipo italiano, mi ricordo che il 900, pensavo, beh, a me serve anche, non l'ho fatto, quindi se rifacevo un po' il programma dell'ultimo anno, io quello non l'avevo fatto, le riviste, queste cose qua del primo 900, queste robe si fece. Poi mi ricordo, c'era economia e diritto e un'altra materia, cioè erano tre materie in tutto. Che io ci andai anche, tanto non c'era un esame, e poi c'era da presentare una tesina finale. Io non mi ricordo cosa succede, cioè io quel periodo cominciai a star male. Male in che senso? Di testa. Di testa non reggevo più quella situazione, cioè perché da come l'ho raccontata apparentemente era tutta una situazione normale, no? Cioè io... apparentemente ho fatto poi una vita normale con delle relazioni, ho fatto anche sesso, cioè non era una... però l'altro aspetto di me rimaneva totalmente irrisolto, cioè quello che avevo sospeso rimaneva, non è che non facesse danni, o non so se fosse solo l'irrisolto che avevo, non so rispondere neanche ora, fatto sta che io a un certo punto cominciai via via, forse secondo me molto anche reprimevo il fatto che io non mi innamoravo mai, cioè avevo, intanto avevo smesso, cioè se una ragazza mi piaceva o intuivo che mi sarebbe potuta piacere non la frequentavo più, cioè cercavo cercavo di avere compagnie dove avevo anche amicizie femminili che però erano il più possibile neutre in questo senso, dove non avevo nessuna spinta erotica. E quindi sceglievo questo tipo di amicizia femminile, proprio secondo me per proteggermi. Ma non è che tutto un affar così sia indolore, tanto più la storia che avevo io. Per cui secondo me in quel periodo lì che avevo ricominciato a frequentare la scuola, anche a uscire magari a Vicenza con altre gente, magari qualcuna poteva, cominciavo ad avere 18 anni, qualcuna poteva cominciarmi a piacere, e sentivo che lì mi piaceva quel contesto, e progressivamente mi staccavo da quel gruppo di amici che avevo invece frequentato per quell'anno o anno e mezzo, cominciai a sentirlo pericoloso e a essere sempre più fragile, sempre più insicura, sempre più spaventata e con la voglia come di risolvere una volta per tutte, ma non sapevo come risolvere una volta per tutte, cioè anche poi con la spinta dei miei genitori di cui io sentivo la preoccupazione, con il conflitto con mia madre che non appena ci andava tutto bene, ma mi ricordo la mia mamma si incazzava su delle cose assurde, mi ricordo l'anno, fu l'anno prima che ero andata a Tesè, al di là di questo che non è stato, ho avuto solo un fidanzato a Tesè che poi è venuto anche a trovarmi, era qua, poi non lo volevo più, e vabbè, a parte questo, era ancora in quella fase. Poi avevamo conosciuto un gruppo di spagnoli, era l'epoca di Franco, quindi era cioè, dal nostro punto di vista lì era anche ancora a Tesè, ci andai anche in maniera mista col gruppo di cui avevo fatto parte prima, era venuto anche qualcuno di loro, quindi un contesto di politicizzazione, io mi ricordo a Tesè sta roba di chiesa non l'abbiamo fatta mai, però le serate intorno al fuoco con questi che ci raccontavano del franchismo, cioè, e decisero, così avevano questa specie di camp, di furgone dell'epoca con cui andarono a Tesè e dopo stavano in giro ancora in Europa, loro erano di Alicante, mi ricordo decisero di venire in Italia e vennero a trovarci, e quindi figurati arrivarono gli spagnoli, era il periodo in cui mio fratello era a casa e anche lui andava dal tipografo perché d'estate, anche se era in seminario, lui andava a fare il lavoretto, lui andava dal tipografo, era riuscito ad evitare il cameriere, la mia mamma d'estate faceva la stagione, quindi lavorava. Io quell'estate non avrò lavorato probabilmente e mio babbo era al lavoro e arrivano gli spagnoli e dicono ah siamo passati, stiamo una giornata, perché non venite anche voi con noi a Venezia? Questo voi ero io e altri due miei amici di Requaro, cioè quelli più grandini di me. Io figurati se perdo l'occasione di andare a Venezia con gli spagnoli, certo. Non sapevo bene come gestire sta roba, anche se soldi non le avevo, non era un problema, si faceva. Quindi il problema era, dovevo far da mangiare per il babbo quando tornava, eccetera, cosa faccio? Convoco il mio fratello, che se io avevo 17 anni, lui ne aveva 12, no, sì, perché io avrò avuto 18 anni e lui 13, 14, quindi era proprio piccino, dice no, c'erano oggi e lui non andava ancora a lavorare dal tipografo, infatti non mi tornava, lui d'estate veniva, tornava a casa a Requaro, i padri bianchi, i suoi frati, lì dove era lui, facevano una mostra missionaria a Requaro per tirare su soldi e gliela apriva lui, sto bambino, stava lì tutto il giorno a vendere gli elefanti d'Africa, sai, l'artigianato africano, per conto dei padri bianchi. Quindi lui era dei padri bianchi alla mostra dei padri bianchi. Quindi io pigliai a corsa, andai a mio fratello e diciamo tu oggi non puoi stare i padri bianchi perché io devo andare a Venezia. E lui in realtà non è mai stato uno molto contraddittorio, l'ho preso e per buono disse mi tocca. E quindi disse va bene, dette lì, non è che lo lasciassero sempre lì, disse io oggi non posso, i padri bianchi gli dettero che andava a casa, va a casa il mio babbo non mi trova a me, trova il mio fratello, il babbo non si incazzò neanche tanto, il problema è quando arriva a casa la mamma, ma come tu, ho fatto da mangiare io, poi è venuto papà, mi ha detto sorella, sono venuti gli spagnoli, andavano a mamma, ricordo, non si torna mai, si torna tardi. Non c'erano cellulari. Venezia la prima volta ci andavi? No, secondo me c'era andata ancora, sì. Ma la mamma, io avevo detto a mio fratello, c'era un mio amico di cui mi avevano tanta fiducia, era santo secondo loro, poi Alberto Acqua. Questo Alberto Acqua, io lo tiravo sempre in ballo, che c'era anche Alberto Acqua. Lui era uno, veniva anche sempre a prendermi a casa, cioè era molto servizievole come persona. E quindi io dissi tu digli che c'è anche Alberto Acqua, che era vero, quindi cosa fece la mamma, partì per vedere se avevo detto una balla, andò a casa di Alberto Acqua e la tranquillizzava, sì Alberto è andato a Venezia con gli spagnoli, sì. Allora vabbè, il dramma fu, già era drammatico questo, tornai a mezzanotte, la mamma non mi voleva neanche aprire la porta perché non mi aveva riconosciuto, perché cosa avevamo fatto? Lo scambio d'abiti, Il fatto è che io avevo addosso gli abiti migliori che mi aveva comprato la mamma da festa. Quell'altra era una che aveva fatto un giro d'Europa degli abiti sporchissimi, tutto lei che stava in piedi da sola, con i miei abiti, quelli della domenica che mi aveva comprata dal negozio, quelli più cari. Io credo, non so come sono sopravvissuta, cioè credo che mi abbia, per un mese non mi parlava la mamma, era nera. Quindi cioè, questa conflittualità alla fine... Io da questo punto di vista sì, non ero particolare, ero normale, ma anche oltre. Cioè, alla fine, cioè, se una cosa mi mettevo in capo io la facevo a costo che mi dovessero poi asfaltare. Cioè, potevo immaginarmelo che se allora sparivo tutto il giorno, mollavo tutte le cose da fare, mettevo il mio fratello di 12 anni a fare quello che dovevo fare io, non tornavo fino a mezzanotte e poi anche do via tutti i miei abiti e torno a casa con questi abiti piccoletti. Senti, cosa mi potevo aspettare? Questo, cioè, dicevi, era comunque in questo momento in cui poi tu sei, questo anno in cui sei entrata in crisi. Sì, cioè, erano come, tutte cose che ci sono. Cosa è successo? Come si è manifestata? Quindi, ecco, perché mi confondevo prima quando dicevo di quando della bicicletta, eccetera. Quella volta lì, invece, volevo andarmene. È stato basta di questa roba. Ma non era un me ne voglio andare un po' così. Stavo già un po' male, cioè, mi vedevano strana e così via. Mi portarono dal dottore. Il dottore disse che c'avevo l'ansia, che non stavo bene in quel periodo, perché appunto comunque loro non hanno mai pensato che tutto il mio disagio psichico fosse risolto. Erano sempre sentiva là. Era anche per questo che io avevo tutta questa libertà alla fin fine. Cioè, perché temevano che magari tenermi, non darmi la possibilità di fare quel cazzo che mi pareva, e, però evidentemente non stavo bene, è ovvio, cioè, venivo da tutte queste, cosa pensarono di darmi? Secondo me è quello il dramma. Pensavo di darmi un antidepressivo, perché a volte succedeva magari che ero giù, in quel periodo, ecco, anche perché ero andata così in felicità a Venezia, perché in qualche maniera riprendevo quello che mi mancava, poi nella mia quotidianità queste relazioni le avevo abbastanza perse, cioè, quindi era questo a me, secondo me mi faceva soffrire di più. Quindi nella ricerca di queste relazioni però a volte mi chiudevo in me, magari davvero non avevo neanche voglia di uscire perché non trovavo più quello che cercavo. Fatto sta che non so chi, perché non me lo ricordo bene, se mi hanno portato da uno specialista o che mi hanno dato gli antidepressivi. Gli antidepressivi a una persona come me, che poi vabbè a un certo punto mi hanno diagnosticato la malattia bipolare dell'umore, chi ti dice non può essere vero, in 20 anni non ha mai avuto niente, io non lo so se è vero o non è vero. Io credo che molto c'entri anche un fatto ormonale, quindi comunque uno sbilanciamento di quello che può essere, quello che ti frulla nel cervello, di molecole, di adrenalina, di vate la pesca. L'antidepressivo a me mi ha fatto perdere completamente il controllo. Infatti io poi quando sono stata male a Firenze, per un periodo breve mi ha fatto prendere gli antidepressivi, però perché potessi prendere gli antidepressivi mi dava il sonnifero, 3 pastiglie al giorno da 2,5 di Tavor, cioè praticamente mi sedava totalmente. A quel punto l'antidepressivo non mi faceva far follie. Lì sto antidepressivo, nel giro di una settimana secondo me sono uscita di testa. Cosa ho fatto quella sera? Io ho dei flash, tra l'altro, perché cioè, credo che tanti episodi non li racconterò perché non li ricordo, o li ho rimosso, o non so neanche se sono andati proprio così. Io mi ricordo che ho deciso di andarne, di prendere la macchina di babbo, tieni conto che io non ho mai guidato, forse me l'ha fatta provare una volta o due, avevo una Prince. Davvero. Presi le chiavi, quando era notte, pioveva, ecco quella era una notte buia e tempestosa, e decisi di andare a Vicenza, non so bene a Vicenza fare che, cioè Vicenza era la città di provincia, in città. Ma dove sei in quel momento, stai studiando? Io credo, sì. Dove io conosco, era l'anno delle magistrali. Sì. Io fra l'altro la patente l'ho presa da grande, poi quando ero a Verona, perché quell'anno, avevo 18 anni, non avevo preso la patente perché mi avevano detto o ti si paga la patente o ti si paga il viaggio a Tesè. Io cosa avrò scelto? Certo. Ma il viaggio a Tesè. E quindi la patente non l'ho fatta. Quindi prendi questa macchina? Prendo questa macchina e parto. parto, mi avvio, mi ricordo il primo tratto, i primi 10 km è tutto curve, non ci si vede niente, ma all'epoca non sarò stata ciecata come adesso, ma fra l'altro pioveva, però in qualche modo andavo. Poi arrivo a Valdagno e pioveva sempre di più e c'era una macchina davanti, ma io ero completamente fuori di testa. Mi ricordo che le superavo anche, cioè mi mettevo nella corsia di là, poi suonavo e passavo, cioè, con questa macchina tutta sbalonzolante, perché la prima è molto sbalonzolante. Sono arrivata a Vicenza, cioè sono passata davanti alla stazione, poi volevo andare verso il centro e c'è un curvone, proprio così, ma io non ho mai guidato la macchina. E fino a quel punto, bene o male, ero andata sempre a dritto oppure all'incrocio, eccetera. E questo curvone l'ho preso male, fece una sbandata, che la macchina fece un testa coda, riuscì a fermarmi, e quella cosa mi scosse. Mi disse, cazzo ci faccio qua? Cioè, mi resi conto, ero completamente fuori di me. Non sapevo perché, capivo che dentro di me c'era quella cosa che volevo andarmene, non sapevo neanche dove, eccetera. A quel punto non sapevo più che cazzo fare. Mi ricordo che cercai un telefono, un bar aperto, non un telefono, c'erano i telefoni a gettone. Cercai un telefono a gettone, i miei non avevano neanche il telefono a casa, chiamai il prete, che era ancora prete, questo, cioè che frequentavo comunque di tanto, quello che poi era andato a fare il prete operaggio, cioè, comunque vabbè, uno che frequentavo, e gli disse, guarda, sono stata male, sono qua, venite a prendermi. Quindi lui andò dai miei, pigliò la macchina, venne lui con i miei a prendermi, mi riportarono a casa, io non seppi spiegare perché. Ovviamente il giorno dopo non esisteva psichiatria a Vicenza, esisteva ancora il manicomio, ma non esisteva psichiatria, quindi dove mi ricoverarono? A neurologia. Ah, ti hanno proprio ricoverata? Mi hanno ricoverata, cercando di fare anche una diagnosi. Ovviamente all'epoca non c'era la malattia bipolare dell'umore, lo misero un po' in relazione all'antidepressivo che avevo preso. Guarda, mi ricordo vagamente, mi tenne una settimana, però io poi, il fatto era questo, che quando avevo questo picco, arrivavo al massimo, poi avevo questo shock e diventavo perfettamente normale a quel punto, perfettamente in me. Comprendevo anche che avevo fatto una cosa di cui non avevo neanche tanto concetto di come cazzo era successa questa cosa, che era che stavo male, ma capivo anche che non esistevo, non capivo bene. Però ritornavo me. E quindi lì c'è questa settimana dove mi diagnosticarono alla fine quello borderline. Mi spiegarono anche cosa voleva dire. E cosa voleva dire? Cioè che voleva dire che non si sentiva di dire che ero schizofrenica, psicotica, eccetera. Non ero solo nevrotica, ero sulla linea tra nevrosi e psicosi. Questo voleva dire questo borderline. Non so, mi avrà dato un po' di calmanti, poi forse anche più niente, e poi mi dimisero così. E in quell'epoca, cioè da allora fino a che non andai a Verona, io ho avuto diversi più episodi limite di questo tipo, finita ricoverata, eccetera. Dopodiché lì, in genere, una cosa anche dove io rinvenivo in questi ricoveri era che vedevo gente che stava peggio di me. E in qualche maniera me ne occupavo. Mi ricordo in quel ricovero lì che avevo socializzato, ora non posso dire socializzato perché era impossibile socializzare, la mia vicina di letto era una donna giovane che veniva un po' dai monti, di 35 anni, che aveva il Parkinson, era stato il terminale. Quindi tutti dicevano che lei non capiva e straparlava e che cercava sempre il suo gatto. Io che c'ero lì, ascoltavo un po', facevo un po' fatica, ma non era vero che non capiva. Poi io gli ero spiegato, guardate, non è vero che lei cerca il gatto, lei diceva ed è un modo di dire, so del gatto, ma voglio dire, sto molto male, sono andata, sono fottuta, so del gatto. E questi dicevano che non capiva perché cercava il gatto, cazzo. Madonna. E quindi io che andavo a spiegare queste cose. E poi un'altra che mi era un po' adottata, che quella, guarda, poveraccia, quella era anche più giovane di me, un anno o due meno di me, quella proprio davvero fu una tragedia, lei aveva due gemelli di 5-6 anni e per andare dai nonni era salita in treno, avevano mandato lei con questi due gemelli, uno dei due gemelli, c'erano i treni quelli con gli scompartimenti, ricordate? Sì, sì. Uno dei due gemelli è uscito dallo scompartimento, lei l'ha seguito per dire torna qua, com'è, come non è? Il bambino ha aperto lo sportello, è caduto di sotto, tranciata la testa. Lei l'ha visto. Era ricoverata per quello. Cioè, Mincò me l'ha raccontato più volte, queste cose, aveva bisogno di parlarne, di rielaborare, cioè, era una cosa, cioè, perché è chiaro che poi di fronte a queste cose, sì, io sì, con sì, tutte le mie paturnie, cioè ero io la prima che mi diceva, ma che paturnie c'ho? Ma perché io devo stare così? Ma non vedi com'è la vita? Per cui avevo continuamente questo, capito? Perché poi io, invece, quando mi sono trovata in una situazione in cui magari stavo male e finivo negli ospedali, ho sempre visto che gli altri stavano anche peggio di me, non che stessero peggio, cioè che avevano motivi più gravi di me, cioè io che cazzo volevo in fin di conti, che non va bene neanche questo, perché negavo. Era quello che ti raccontavi. Era quello che mi raccontavo, perché questo, a quel punto io rientravo, apparentemente era come se non fosse successo niente, rimuovevo, e ripeto, secondo me ancora ora, chissà quanti episodi ho rimosso, anche perché poi in realtà non mi era neanche utile tirarmeli fuori, non è che oramai faccia bene tirarmeli fuori, ora ho un'età dove non è che temo allora mi risuccede, domani mi sveglio perché ho tirato fuori questo, ma per tanti anni, quando poi mi succedeva di non star bene, per me l'idea di andare a rivangare questi episodi così dolorosi, eccetera, il terrore di dire rientro in quel loop, e finché non ho una smusata che mi cambia qualcosa io non ne esco, che poi alla fine è la stessa dinamica della storia del ponte, è stato talmente scioccante, sono sopravvissuta, ero un'altra persona poi, perfettamente in me, cioè per cui poi sono stata in grado anche di salvarmi e di difendermi, ci arrivavo di più di chi avevo intorno, cioè, ma perché avevo avuto uno shock molto potente, cioè se io ogni volta dovevo avere uno shock dove rischiavo la vita, cioè non è che puoi andare avanti così, io questo lo sapevo, però in realtà sono andata avanti così. Però senti, poi qualche cosa ti ha portato fuori invece, nel senso dopo questo periodo che dici fino a trasferimento. Quando poi sono andata a Verona, cos'è che ti ha spinto a... Allora, a parte quello, beh, ci sono altri, c'è tutta Padova nel mezzo, ecco. Tutta Padova. Cioè, cos'è? Perché te a un certo punto sei andata via dal Recoaro. A un certo punto ho finito, cioè nonostante questo episodio completamente massacrante, io però alla fine il quintano l'ho fatto. Mi ricordo ancora, feci da Tesina su Pascoli dal punto di vista psicanalitico, ho fatto tutto da me. Mi sono letta Freud, mi sono letta Pascoli, il fanciullino, questo e quest'altro, e avevo tutta la mia bella teoria che Pascoli non si era mai maturato. E quella è stata la mia tesina. Ma perché? Perché a quel punto mi interessava molto il discorso della salute mentale. Quindi sono andata a ravanare sulla pazzia di Pascoli, che in effetti proprio a posto non era, no? E fu quello che poi mi spinse anche, cioè quell'anno che poi decisi volevo fare medicina, perché volevo fare psichiatria, non è che volevo fare medicina, volevo fare psichiatria. E esisteva già psicologia, ma c'era una differenza abissale dal mio punto di vista. Soprattutto per me non era ammissibile di andare a fare psicologia alla facoltà di pedagogia, di rifare il piacere, anche no. Quindi io psicologia no, non la voglio fare medicina e poi psichiatria, quella fu la mia idea. Ovviamente era demenziale, cioè per quanto fossi lucida su tante cose non ero assolutamente lucida per valutare quelle che erano le mie capacità di resistenza, quello che significava fare una facoltà come medicina, la lunghezza di far medicina per 4 anni in psichiatria, cioè non ero in grado. Comunque però, ti iscrivi a, Padova, a medicina a Padova e ti trasferisci a Padova. No, il primo anno Padova era troppo per me, dovetti giungere a un compromesso con i miei. Il compromesso con fu questo, che siccome Padova di 100 su 30 km, per loro era più economico trovarmi una collocazione a Vicenza. Quindi non so dove me l'hanno trovata, me la sono trovata io, secondo me l'avranno chiesto, eccetera. Andai a finire da un'anziana che cercava una studente, qualcuno a cui affittare una stanza. E andai lì, mi ricordo, a Vicenza, era c'era un autobus che arrivava in stazione e io da lì andavo poi a Padova, quindi era raggiungibile. Fra l'altro quell'anno o quegli anni ci fu il boom di medicina, c'erano tantissimi studenti, era una cosa ingestibile a Padova. Che anno era il tuo primo anno accademico? Può essere 73-74? Vabbè, facciamo, sì, che 54 più 19, 76-74. Sì, l'anno accademico 76-74. Sì, ci sta. E quindi quando io andai a Padova mi trovai in questa facoltà strapiena dove non c'era verso neanche di andare a sentire le lezioni, ma soprattutto divisero in due gruppi, che la struttura non reggeva tutti quegli studenti, quindi concentrarono tutte le lezioni 3 giorni alla settimana per metà studenti e gli altri 3 per metà, in modo che buttavano fuori per 3 giorni alla settimana metà della popolazione studentesca, facendo in modo che la struttura reggesse proprio fisicamente. A me mi toccò dal lunedì al mercoledì, quindi avevo lezione solo dal lunedì al mercoledì. E quindi pensai, cosa faccio gli altri 3 giorni, nelle mie solite follie, cioè perché ovviamente in questo modo non socializzai un cazzo. L'unica persona che conobbi e che poi frequentai, almeno quell'anno, un po' anche quello dopo, ma dopo basta, fu questo ennesimo fidanzato, quello che io chiamavo l'arabino. L'arabino, cioè lui era cioè il piccolo arabo, tale Mohammed Gaber, che incontrai sul treno mentre da Padova tornavo a Vicenza. Questo, quello che io chiamavo l'arabino con i miei, era un ragazzo molto tenero, cioè, ma poi gli arabi sono così, cioè sono apparentemente, hanno un comportamento un po' più effeminato, cioè non sono dei bulli, dei grezzi, tutt'altro. Soprattutto lui era appena arrivato in Italia, era fuori dal mondo, poveretto. Mi ricordo quando lo conobbi, aveva questo capottino. Ma da dove veniva, scusami? Da Israele. Lui era venuto, poteva studiare medicina qua perché aveva il suo fratello che era un cantante famoso. E quindi aveva fatto i soldi e pagava ai suoi fratelli gli studi, quindi lui era qua con i soldi del suo fratello, cantante famoso. E mi ricordo che aveva questo cappottino tipo collegiale, che non neanche, ridicolo, cioè come se avesse avuto 8 anni, no? Cioè con quei bottoncini, quel doppio petto, tutto impettito, faceva tutta questa chioma enorme di capelli, mi piace tanta tenerezza, e lui cominciò a cercarmi sempre, a frequentare, e lui faceva medicina, come me. Ed era nello stesso gruppo, perché lui era G, io ero B. Tantissimi palestinesi sono venuti in Italia a fare medicina. Tantissimi palestinesi sono venuti in Italia a fare medicina. Cioè lui viveva in Israele, di fatto, cioè non era nei territori. Lui viveva in Israele, cioè, e di fatto aveva la cittadinanza israeliana. Comunque nulla, fu l'unica persona che conobbi, con cui spesso magari mi fermavo poi a Padova, studiavo. Anche perché appunto studiavamo le stesse cose, cioè, riuscivamo anche a studiare assieme delle cose, ovviamente lui aveva un po' di problemi con l'italiano, quindi io l'aiutavo un po' con l'italiano e questo costringeva anche me a studiare poi, perché sennò da sola non è che fossi tanto studiosa. Gli altri 3 giorni alla settimana mi inventai questa cosa, cioè, perché appunto sentivo un po' anche sempre questo peso, no? Di io che ero così stramba e poi mi facevo mantenere, di cercarmi anche un lavoretto, da meno comprarmi libri eccetera. Trovai lavoro in un bar, quello che io chiamavo il bar degli americani. Questo era un bar proprio di fronte alla caserma Ederle. A Vicenza c'è la caserma Ederle, che è la struttura più grande in Europa di militari americani, cioè è un villaggio praticamente dove sono solo loro, di tipo 10.000 abitanti, quindi con le famiglie eccetera. E venivano così americani in questo bar, io ci andavo il giovedì, venerdì e sabato, facevo dalle 5 a mezzanotte e pigliavo qualcosina, poi la domenica andavo al Quaro e il lunedì ero pronta per tornare a Vicenza e andavo a frequentarlo. Quell'anno l'ho passato così, ma anche lì era una vita sopra le righe, cioè dove, è vero, vedevo un posto Mohammed, ma non, cioè, avremmo anche scopato qualche volta, ma non me ne fregava, giusto, mi faceva un po' di tenerezza, me l'ho sopportata anche un paio di volte al Quaro, cioè non, però io non è che mi sia mai innamorata di un uomo, neanche di Mohammed, però durò tutto l'anno sta storia con Mohammed, E intanto ti facevi medicina, presentavi corsi, presentavi corsi da lunedì a mercoledì, andavo al bar degli esami. Allora gli esami lì fu, cioè i primi esami erano a giugno, io il primo anno ero di presoario, non mi ricordo come lo dessero, cioè secondo me il primo anno ce l'avevi se tu avevi il reddito basso comunque, cioè se era la prima volta, non so se era... Non credo neanche fosse collegato con i voti alla maturità, perché io non avevo un grosso voto alla maturità, però dal secondo anno il presalario tu lo mantenevi, poi non so gli anni successivi come fosse, però il primo anno tu dovevi aver fatto almeno due esami a giugno, quindi il mio obiettivo era fare due esami a giugno per mantenere il presalario, in tutta questa vita stramba poi, perché cioè tornavo con l'autobus, mi fermavano sempre perché mi scambiavano per una puttana quando cambiavo l'autobus, cioè una vita un po' sopra le righe. Comunque riuscivo ad andare a lezione, l'ho seguita davvero chimica, fisica era un problema, volevo far fisica, cioè togliermi quello, perché facevano l'appello, non mi ricordo come si chiamasse, tipo il preappello scritto, quindi molto più facilitato in qualche modo. Obiettivamente se uno seguiva le lezioni lo faceva, e quindi pensato mi trovo con due esami fatto. Quelle che seguì io, le materie che seguì io il primo anno furono chimica, biologia, però biologia non potevo farci conti perché biologia l'avevano spezzato in tre sottoesami, quindi a giugno era previsto un primo esame, che non mi ricordo, forse parassitologia o genetica, e poi altri due esami erano previsti a settembre, quindi quello però su di non valeva. Non valeva. E quindi potevo contare su quelli. Poi riuscivo anche a frequentare, però malamente, il pomeriggio, perché poi dovevo andare via, avevo il treno, istologia e anatomia, che era il pomeriggio. Però anche lì anatomia era biennale, quindi anatomia non potevo contarci. Dovevo contare solo su chimica e fisica. Su chimica e fisica. Il problema è che fisica era la prima ora. Da prima ora a me mi arrivava il treno alle 8, 8 meno 5, era vicino. Ma ora che io arrivavo erano le 8 e 10. C'era la calca, cioè a volte mi toccava seguire le lezioni da fuori dalla porta, cosa vuoi che capisci? Quelli di fisica. Io che avevo avuto 7 ad 9 e non sapevo neanche le che parlassero. Fatto sta che quando venne l'ora dei trappelli, cioè io l'esame mi feci tranquillamente biologia, però quel pezzo che non valeva, chimica, il preappello, fisica non capì neanche la domanda, non lo feci, quindi mi ritrovai a giugno, che in realtà avevo solo chimica. Quindi mi buttai su istologia, che però avevo seguito o non seguito, poi mezza cercata, poi non ho quella praticità, era tutto un esame di vetrini, istologia, che all'epoca, ora è un esame fondamentale in medicina, ma all'epoca mi sembra che fosse addirittura un complementare. Quindi ho pensato, senti, andrò a fare questo, almeno mantengo il presalario. Sapevo niente, ho mirato al 18, cioè speravo un po' di più. Altri hanno rifiutato 18 istologia, io quando mi ho proposto 18 sapevo che posso permettere di rifiutare 18, ma c'è il mercato di 18. Andai su tutte le curie, quando faccio domande al presalario e mio babbo aveva superato tipo per 100 di reddito per colpa di quel cazzo di pensione che aveva, tutti quelli di Recuaro, quelli, tutti il presalario, quelli perché non pagava le tasse, di conseguenza aveva reddito basso. Tutti hanno mantenuto il presalario, magari facevano scienze politiche, avevano fatto due esami del caso, il presalario quelli ce l'avevano, io rimasi senza presalario. Fu una dura botta, quella, perché cioè era sempre quelle cose dove andavo a sbattere con l'appartenenza di classe, con l'incapacità di... cioè per noi era importante quel presalario, cioè quindi già io avevo il senso di colpa che dovevo attrezzarmi in qualche maniera ad andare a lavorare al bar degli americani perché mi sentivo in colpa, eccetera. Poi mi trovo, oltre a essermi fatto il culo tutto l'anno, vai al bar degli americani, fai gli esami, fai questo, accetta quel cazzo di 18, non me lo danno, e lo danno a tutti quelli più ricchi di noi, proprio una dura botta. Ma e quindi poi dopo medicina per quanto tempo l'hai continuata? Quindi poi ti sei trasferita a Padova l'anno dopo? L'anno dopo andai a Padova, cioè perché a questo punto la reazione che non fu neanche quello di dire no basta, non la faccio più, disse no basta, la voglio fare, ma non è più giusto che mi faccia sto culo, cioè che sto a Vicenza, piglia il treno, vedi, se io fossi stata a Padova probabilmente l'avrei passato fisica. Poi il personale non me lo davano neanche lo stesso, ma almeno non dovevo pigliarmi quello schifo di 18 in istologia che mi aveva molto minato un po' la mia sicurezza con 18. Cioè non socializzavo, non avevo mai tempo di socializzare con gli altri, cioè, perché io avevo sempre da correre, da andare, da brigare, da andare a lavorare, avevo i miei a requaro. Quindi mi sono trasferita a Padova, inizialmente però non avevo un posto, non ero neanche in grado di gestirmi, di dire vado e cerco una casa studenti con altri, con chi? Cioè io ero in una fase in cui anche se magari conoscevo gente che stava a Padova a dire qua l'ultima roba che avrei voluto sarebbe stato prendere casa a Padova con qualcuno di Arquaro. Quindi inizialmente andai in un collegio di suore, finte vicino alla stazione, finte suore eccetera, altro anche abbastanza caro, in una stanza con altre dove ci avevamo pure rientro la sera. E io mi ricordo questo episodio di quell'inizio, avevamo rientro alle 10, che era assurdo, però vabbè, questo tranquillizzarmi i miei sul fatto che andavo a Padova inizialmente. Mi ricordo che conobbi delle ragazze lì, tra cui anche questa mitica Maria Grazia di Padova, Maria Grazia di Imola, che era nello stesso collegio, io la conobbi lì, e faceva psicologia questa, poi anche delle altre ragazze con cui legai comunque in questa casa di semisuore. Mi ricordo che c'era un concerto di Battiato, anche perché ecco, politicamente mi ci ritrovai invece, cioè la selezione, cominciai a ritrovarmi in un mondo che era quello mio vecchio d'appartenenza, che mi era mancato per tanti anni, quindi andare alle assemblee, cominciare a fare attività politica, andare alle manifestazioni. Preso in quegli anni. Quell'anno. Subito. Appena arrivai a Padova effettivamente, Mohamed non me ne fregava più nulla, perché cioè Mohamed apparteneva a un altro mondo. E fra l'altro era anche molto vivace inizialmente quell'anno la facoltà di psicologia che frequentava lei, furono gli anni di Basaglia, cioè io che ero partita con l'idea di fare psichiatria, ero molto stimolata da tutto questo, anche medicina invece, quello che andava un po' per la maggiore era il momento in cui come studenti si lavorava molto sul concetto di medicina del lavoro. Io che comunque delle fabbriche c'ero stata, cioè ero anche molto stimolata da questo, quindi in realtà quel primo anno fu molto utile per diventare quella che volevo essere, una che era andata a Padova a studiare, che faceva la vita dello studente, che entrava nel movimento. Mi parlavi di questa amica Maria Grazia. Questa amica di Maria Grazia, mi sembra un anno meno di me, io la conobbi lì, lei viveva a Imola, anche lei era di una classe bassa, i suoi avevano un banco al mercato, era figlia unica e ci legammo abbastanza, tanto che mi ricordo, poi si andò anche in vacanza assieme, inizialmente ci si frequentava, tra l'altro anche una persona, anche lei con una serie di problemi, per cui ogni tanto tutte e due poi ci cavavamo, ma finivamo nel loop da cui io venivo, da cui evidentemente veniva anche lei, cioè tipo conoscere due tipi in treno del cazzo con cui poi si usciva perché tutti e due volevano, trovi due amici che trovano le due amiche, diciamo non c'hai l'amica e così via. Mi ricordo questa scena che dopo non lo si fece più di frequentare sta gente che ci raccattava per strada, che contemporaneamente lei conobbe due e fissò di uscire insieme a me con questi due, tanto non lo si faceva, peccato che la stessa sera anch'io avevo conosciuto due e anch'io avevo fissato di uscire anche con lei. Allora i suoi due erano tutti militari, quindi i due militari, due ha fissato con lei, due ha fissato con me. Quelli che ha fissato con lei erano, non mi ricordo, erano toscani, erano due ragazzi abbastanza tranquilli. Quelli che mi ero accattata io erano due sardi, di cui uno giostraio. E quindi i primi ad arrivare furono quell'altri. Io non sapevo più come gestire, ma ora arrivano quell'altri. Insomma, alla fine ci scoprirono che avevamo questo doppio appuntamento. Poi ragazzi, tutti fecero buon viso e cattiva sorte. Erano in quattro, noi eravamo in due. E quindi abbiamo cercato, alla fine si andò a ballare, che erano i primi tempi della discoteca. Il dramma fu, quando si chiacchiera, cioè a quel punto gli era andata così e non ne hanno fatto un dramma. il problema è che parlano e viene fuori che il sardo che mi ero accattato io, cioè quello che avevo accattato io, non il suo amico, che era uno chiacchierone e così via, e poi che conosceva quello che aveva raccattato Maria Grazia, dice lì, ma come noi ci siamo conosciuti? Oh, io me la sono vista brutta, si è scappata letteralmente in Maria Grazia. Lui era quello che gli aveva fregato la fidanzata a Sardo. Accidenti, figlia, veramente. Ha tirato fuori il coltello. Cioè, Maria Grazia si è andate a gambe ed è finita così. Non ci hanno mai più cercati e abbiamo lasciati lì a far la risa fra loro. C'è proprio sfiga. Per dirti, no, cioè, credo che dopo quella volta abbiamo smesso di farsi cazzate. Non ce ne fregava nessuna delle due, era così. Com'era Maria Grazia? Era un po' paldosa come persona, cioè non era una persona lineare. I miei non la potevano vedere, Maria Grazia, stava sicuro il mio. Ma che aspetto aveva? Vabbè, i capelli così. Così che vuol dire? A caschetto, sempre così, penso li abbia avuti nella sua vita. Era una un po' puntigliosa, era una che anche lei era per alcuni aspetti come me ingenua. Mi ricordo quella volta, guarda, pigliato il culo tantissimo, perché venivo a fare l'esame di fisiologia, facevano a psicologia. Questo esame di fisiologia era un insieme di un po' di biologia, un po' di genetica, eccetera. Lei era una molto più studiosa di me, doveva essere un po' al contrario, perché psicologia è un po' più facile, ero io che dovevo essere più studiosa, in realtà lei era più studiosa e ci metteva la buona volontà e poi mi chiedeva, perché lei era convinta che io sapessi di più di quello che sapevo in realtà, quindi mi dava credito in quello che dicevo. Una volta viene da me studiando, senti, mi devi spiegare questa cosa, perché cioè, non può essere che io sono così ignorante. Però guarda, io ho pensato, ho letto, ma mi spieghi dove sono gli spermatozoi delle donne? Aveva studiato i gameti, cioè era passata dai gameti, confondeva i gameti con gli spermatozoi e quindi nella sua testa le donne dovevano avere degli spermatozoi, visto che avevano i gameti. Okay. E però non capiva da dove uscissero, cioè non aveva capito che erano gli ovuli. Ecco, questa era il tipo di relazione, cioè dove io, per esempio, con lei, essendo lei così ruda, non avevo quei problemi che un po' sempre avuta, che poi approfittano di me, mi pigliano per culo, perché poi non capisco, se poi anche scrivo che il gallo canta quando fa l'uovo, lei mi chiede dove sono gli spermatozoi della donna, sono pari, ecco. Quindi no, io con lei mi trovavo bene. Il problema è che nel corso degli anni poi un po' mi ci innamorai. Ah. E quindi questo fu un po'... Nel corso degli anni, cioè? Perché poi allora quell'anno andò così, però vabbè, stavo raccontando la storia di Battiato per dire perché abbiamo deciso che non potevamo stare in quel cazzo di collegio di suore. Beh, c'era un concerto di Battiato. Battiato era abbastanza sconosciuto, lo faceva in un cinema lì abbastanza vicino. Il concerto era previsto per le 8:30, mi sembra, mi ha detto noi abbiamo rientro alle 10, magari non lo sentiamo tutto, però un bel pezzo sì, compriamo i biglietti e si andò al concerto di Battiato. A un certo punto Battiato mai arriva, io ho odiato Battiato per anni per questo motivo. Si comincia a mormorare che prima avesse un altro concerto, che vorrà pigliare e fare la doppia serata. Ma noi alle 10 avevamo rientro, quindi gli altri bufonchiavano eccetera, ma noi l'avremmo perso. Arrivò, cioè noi volevamo star lì, almeno vederlo, arrivò alle 10:50, ma noi avevamo rientro alle 10, c'era un quarto d'ora di strada per andare, incazzate nere contro questo Battiato, pezzo di merda, eccetera, partiamo a corsa, a testa bassa, per andare, per tornare al collegio prima che ci chiudessero fuori. Non mi sono accorta che c'era, è presente quelle grate che non sono così, ma sono così, esposte verso l'esterno. Una finestra. Mm, sì, una finestra con le grate che piovono verso fuori. Ci sono. Sì. Era alla mia altezza, ma io a testa bassa non l'ho vista, l'ho preso qua. E la prima roba che ho detto, aiuto i fascisti. Sono caduta lunga distesa. Alla fine mi hanno accattata, cioè sono riuscita. Non mi hanno portato all'ospedale perché mi hanno dato da bere della grappa, in qualche modo mi hanno messo del cerotto nel bar e sono riuscita ad andare. Mi hanno detto non possiamo fare questa vita, quindi per l'anno successivo abbiamo detto cerchiamo appartamenti insieme, magari cerchiamo una terza, così abbiamo fatto. E infatti poi i due anni successivi sono state il primo anno, cioè, che poi a quel punto per me era il terzo, siamo state in un appartamento dove ho visto tantissimi film, perché era sopra un cinema che faceva delle bellissime serie, cioè tipo tutto Dario Argento, poi facevano, cioè, tantissimi film, con un'altra, con una tizia di Messina, e cioè e quell'anno lì, a quel punto era credo 75, 76, qui a quel punto era esploso il movimento, e mi sa che fu quell'anno lì che si occupò la facoltà. Ecco, no, oggi devi raccontare, bisogna andare su due cose, una è tornare su Maria Grazia e l'altra è il movimento. Vuoi fare una pausa, Graziella? Sì, forse sì, il giorno 20. Ma no, sì, non ce la faremo mai. Vabbè, intanto facciamo... No, Elena, un secondo, perché ora ci sta... Facciamo una pausa. Facciamo una pausa, sì, ma anche di 10, cioè... Sì, quello è però una pausa un attimo. Sì, perché sì, sì. Oh, sicuramente ho saltato delle cose. Ma ora non è che dobbiamo raccontare tutto, ora noi ogni tanto siamo, sì, cioè se no poi non arriviamo, sì, nemmeno mai alle... Se no poi alla fine andiamo veloce sulle cose più importanti. Esatto, poi che c'entra, non è che possiamo...